Liberami, padre, di ogni bontà. Dalla medianità degli zingari. Liberami, padre, di ogni bontà. Dal vizio della droga. Dal vizio del bere i liquori forti. Liberami, padre, di ogni bontà. Dalle ossessioni omosessuali. Dalle ossessioni gay. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Il mio ragazzo sta studiando nuove tecniche per farmi squirtare. Farmi squirtare. In pratica sono diventata la sua cavia. Ma insomma, ognuno fa quello che vuole, a me non me ne frega niente, non mi scandalizzo, non mi stupisco. Però in effetti a me che cazzo me ne frega di stare qui a rompermi i coglioni a parlare con parenti. First date, electricity. When you walk in, you suck my circuitry. Ho chiamato stasera perché volevo dire soprattutto a quello stupido di Parenzo che io mi auguro che ne vengano fuori altri 10, 100, 1000 procuratori come quello di Catanzaro. Così finisce questo mercimonio sulla pelle di questi poveri ragazzi di colore. 10, 100, 1000 zuccheri. Zuccheri. Catania, scusa, Catania. Dai, denunciami, Parenzo, io te l'ho già detto un mese fa che io delle tue denunce mi sciacquo i coglioni, hai capito? È figa, è minchia, è porco di che cazzo. Hai capito. Mi sciacquo i coglioni, hai capito? Allora ragazzi, siamo in diretta anche oggi, 1° maggio, caro Parenzo. Eccoci sono qua. Carico a molla, sono carico. Sono carichissimo anche oggi, soprattutto perché bisogna mandare un grande messaggio oggi. Sì. Un grande messaggio. È una bella giornata per chi... No, oggi è bruttissima, qui c'è un tempo di merda a Milano, ma lasciamo no, perdere. No, è una bella giornata perché la festa dei lavoratori è in realtà una festa bellissima, che come tu sai nasce in America. Ma me ne sbatto di queste cose. Però voglio prendere spunto, come sai me ne frego della festa dei lavoratori, il 1° maggio... La festa dei lavoratori ricorda le famose, la richiesta degli lavoratori alla fine dell'Ottocento di fare le famose 8 ore. Ora, nella giornata del 1° maggio della festa dei lavoratori in Italia, essendo io uno che notoriamente non ha mai fatto un cazzo in vita propria, avendo fatto il deputato sempre per tantissimi anni, con il vitalizio, ho preso possesso del Sole 24 Ore, che oggi era totalmente deserto. C'era soltanto una povera guardia era messa lì. Ho suonato, ho detto: chi è? Sono Mario Capanna. Prego, dottor Capanna, entri. Neanche nessuna resistenza ha fatto il poveretto. Salito immediatamente con l'utilizzo dell'ascensore, bellissimi ascensori peraltro, al terzo piano. Ho preso possesso, non c'era un cazzo di nessun lavoratore. Poi dicono i giornalisti non fanno un cazzo. Abbiamo avuto notoriamente la conferma. Ho preso possesso ormai del Sole 24 Ore. Ora non mi manda via più nessuno. L'avviso che faccio agli amici, alle compagne e ai compagni che sono alla piazza del 1° maggio al concerto: dirottate tutto, compagni e compagni, perché e venite oggi... in massa, non c'è nessuno in massa dentro il Sole 24 Ore. Occupiamo finalmente questa baracca straordinaria. Voi 80.000 persone, venite qui immediatamente, piazza dell'Indipendenza. Tanto c'è solo una povera guardia che sta peraltro mangiando un kebab. Ma no, non ti dire così, che poi uno lo cacciano, che non può uno mangiare uno straordinario kebab. Se lo cacciano faremo una grande battaglia popolare qui al Sole 24 Ore a occupare queste stanze, che francamente questo palazzone qui, uno dice: ma a che cosa serve oggi? E questa radio a cosa? Cruciani, oclocrati, gente che non serve a nulla. Almeno faremo una grande irradiazione di diritti dei lavoratori da qui. Quindi l'avviso alle compagne. Poi ho letto oggi che c'è stata questa straordinaria manifestazione a Parigi con scontri meravigliosi con la polizia. Quello è stato brutto. Sì, beh, formidabili quelli anni. Anche in Italia ci sono stati scontri. Certo, naturalmente. Mi ha ricordato, ma quelli di Parigi straordinari. Ho visto delle camionette da date alle fiamme, una sì, cosa ho visto anch'io, mi ha ricordato il maggio francese magnifico, quando partivamo con le compagne e i compagni, se ne avevamo lì soprattutto per scopare, per la verità, qualche cannetta, e poi soprattutto si preparavano delle cose meravigliose, cosa, con le cosa. Bottiglie vuote, ma con non le è bello, bottiglie questo vuote non è bello, si metteva dentro pochissima benzina, un piccolo stoppino, e poi si lanciavano dicendo scappate via cani, cani, e scappavano come conigli, una cosa meravigliosa negli anni 70, meraviglioso. Ho capito, però è la violenza comunque va bene, comunque l'invito di Capanna, avete sentito che si è inserito ancora una volta nelle onde radio qui della radio di Confindustria, è di lottare dalla manifestazione del primo maggio a Milano, cioè a Roma anzi, verso il Sole 24 Ore, che è vuoto da quello che sembra, vuoto tranne una guardia, vabbè, comunque. Allora, dicevo però che il primo maggio oggi bisogna fare una grande battaglia a favore di due persone che sono state cacciate indegnamente da parte della multinazionale tedesca Lidl. Perché hanno fatto uno scherzo a una Rom, a un paio di Rom. Hanno fatto uno scherzo. Hanno leso l'immagine di quell'azienda che ha deciso in autonomia di licenziarli, ragazzi. Sbagliatissimo. Cioè, tu l'unica volta. No, una grande battaglia. No, da qui inizia una grandissima battaglia della Zanzara, assolutamente. Non solo contro la Lidl. Studierò una grande campagna contro la Lidl. Io già non vado mai. Io non vado mai alla Lidl. Tu non ti sei mai mobilitato per nulla. No, come no? Come per no? Niente, mi sono mobilitato. Adesso sì, per i vegani ti sei mobilitato per un sacco di cose. Alla e fine adesso mi sono mobilitato. Ti mobiliti per questi due ragazzotti dipendenti che hanno fatto non una bischerata, ma una cosa di una cattiveria inaudita, cioè chiudere ma delle... quando mai in una gabbia e filmare e postare tutto di fronte a questa quella che non è una guasconata, la Lidl per danno d'immagine li ha cacciati via, mi sembra giusto. Guarda, io è sbagliatissimo, la Lidl va assolutamente boicottata in tutti i modi. Perché io non metterò mai niente, più piede ma alla Lidl. Io personalmente non metterò piede perché tu non mai spendi mai una lira, perché tu non vai neanche a fare la spesa. È il posto ideale da questo punto di vista. Da questo punto di vista sarebbe sì, il posto ideale. Benissimo, ma tu non vai mai a fare la spesa, quindi... Ma non è vero, a parte che non è vero, ma in ogni caso sono andato pochissime volte alla Lidl e da ora in poi lo eviterò accuratamente. Ce n'è uno anche vicino a casa mia. No, ce n'è uno, lo eviterò accuratamente. Mi sembra una follia inaudita. Cioè semplicemente sono state umiliate delle persone. Com'era il grido delle Rom? Questa era uno scherzo, erano consapevoli dello scherzo, peraltro. Licenziamento sacrosanto, mi scrive anche l'avvocato. I Rom fanno le peggiori illegalità, la stessa c'entra? Rom che è stata cacciata via. Ma aspetta, la legge del taglione, ma la stessa Rom che è stata cacciata via faceva illegalità ogni giorno due ex dipendenti di un supermercato. Aspetta. A rinchiuderli dentro, riprendere e sbeffeggiarle. Ma sbeffeggiarle, non c'è nessuno sbeffeggiamento. Ma come in tutto... no? Le prendevano in giro, gli urlavano. Ma quale urlavano? Adesso non ma esci, quando... urla! Senti come urla! Dai, una cosa vergognosa. Allora, questa Rom si chiama Margherita, faceva sempre così, mi ha riferito questo Ramon Zurita, uno dei due, che è stato licenziato, l'altro era un contratto temporaneo che finiva, chissà perché, il 30 di aprile, non è stato rinnovato. Ci dispiace. Cioè tu che dovresti essere dalla parte dei lavoratori, ma se un lavoratore sbaglia, mi fai passare... Ma mi fai passare come quello come che difende che il posto di lavoro. Il punto non è i lavoratori che rubavano a Fiumicino, questi non hanno fatto nessun furto, sono stati licenziati e poi reintegrati. Una cosa vergognosa. Quando un lavoratore sbaglia non è che siccome un lavoratore questo, ha uno statuto dai, particolare su, qua... Io sono contro i licenziamenti indiscriminati, ma se un lavoratore sbaglia, ma quale errore, hanno postato un video di due Rom che due Rom ladre. Comunque un altro lavoro lo trovano sicuramente, posso fare domanda per lavorare in un carcere? Qui voglio lavorare come polizia penitenziaria. Voglio fare. Possono mandare il loro curriculum. Non lavorano nel supermercato. Mandino. Sono bravissimi per la polizia penitenziaria. Perfetti. Sono già preparati. Scrivano una lettera. Non occorre neanche che mettano le credenziali. Allegano il video che hanno fatto. Vadano a lavorare alla polizia penitenziaria. Quanto sei spiritoso. Alla polizia penitenziaria. Ragazzi, voglio fare qui un appello ai tantissimi imprenditori che ci seguono. Oltre ai camionisti, oltre agli operai, oltre ai liceali, oltre ai agli studenti universitari. Oltre alle trans. No, alle transessuali, sì. Non c'è dubbio. Ai gay, agli eterosessuali, a chiunque. questo signore che ha appena perso il lavoro, si chiama Ramon Zurita, non l'hai mai uno fatto dei per due. Nessuno, è incredibile. No, lo faccio per lui, lo faccio per lui. È disgustoso. Che è un imprenditore, che è un imprenditore, ce ne sono tanti all'ascolto, si faccia carico di questa follia commessa dalla Lidl. Secondo me è una follia. Questi sono anche che trova lavoro anche a due persone che hanno commesso una cosa vergognosa. Dai, no, io ho sentito questo tizio qua, questo Ramon Zurita, l'altro non l'ho sentito. E credo assolutamente in quello che dice. Credo assolutamente in quello che dice. C'è il video. No, ma non cosa vuol dire credo quello che dice? Senti, c'è il video. O non ti preoccupare. Sei chiusa da sola. Sentiamolo o comunque. Sei sentiamolo da sola stasera. Dentro. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra con questo, con licenziamento? Questa è una roba montata mediaticamente da persone come te, da persone della sinistra in particolare, sinistra. Le quali hanno visto la Roma richiusa. Parte? La richiusa. Roma richiusa. Ma che vuol dire? Candidateli noi con Salvini. Dai, perché li metti capilista? Dai, capilista, noi con Salvini, forza. Si poteva evitare, ci sono stati altri video con lei che si scherzava e io mi assumo la responsabilità di questo. Nessuno ha voluto far male alla Rom e tra l'altro nonostante mi avessi rigato la macchina, tra virgolette si era quasi amici, quasi colleghi, perché era sempre lì dalla mattina alla sera. Cioè questa ha rigato la macchina, importunava i clienti, questo pare che lui. Ci fosse un giro, beh no, lo dice lui, certo, perché non gli credi? Non ci so, fosse un giro di prostituzione anche lì davanti alla Lidl. Questo giustifica che la prende e alla fine chi se la piglia in quel posto? Dai! E questo giustifica senti, il fatto senti che ancora. Tu chiudi delle persone dentro una date gabbia un lavoro, date un lavoro ai due della Lidl, imprenditori che siete all'ascolto, gente con la schiena dritta che non si fa mettere i piedi in testa dal politicamente corretto, gente che non pensa che questi siano razzisti, ma gente che ha fatto semplicemente uno scherzo a due rom ladre che stavano davanti al Lidl di Follonica. Svegliatevi, impazzito. Date un lavoro a questi due licenziati, impazzito. Date un lavoro subito, subito. Ti farebbe quel video, Ramon? Ma sicuramente sì, perché è stato uno scherzo. Bravo, bravo, non si tira nemmeno indietro, non ha detto non lo rifarei, è stato uno scherzo. È stato uno scherzo, sì, non ci può stare reso una conto multa, di quello che ha fatto. Ci può stare una multa, ci può stare una piccola sanzione. L'ha deciso un'azienda privata, sì, perché, non infatti, i comunisti. Infatti, mica ho detto, mica ho detto chissà no? Che, mica ho detto, un'azienda, ho detto semplicemente che io a me questa decisione mi fa schifo, chiaro? Mi fa schifo, chiaro che mi fa schifo questa decisione e non entrerò mai più, ci sono entrato poche volte, peraltro in un supermercato della Lidl, per quello che mi riguarda. Chi se ne frega, quelli potranno dire va bene, d'accordo, non falliranno, a maggior ragione. Io dico che ho sentito tanta gente in questi giorni e sono tutti incazzati neri. Le persone che ho sentito sono tutti incazzati neri e sono sicuro che voi siete all'ascolto. Ecco che fomenta, certo. Adesso ecco chi siete accende. Siete incazzati neri con la Lidl, ditemelo fortissimo, alzate la voce. Sono stati comunisti, no, non sono stati comunisti a licenziarli, no, è stata l'azienda stessa. Chi ha detto che sono stati comunisti? Frutto della campagna vergognosa che è stata fatta ai loro danni, vergognosa. Si sono fatti la campagna da soli, su internet, da soli si sono sputtanati questi, da soli. Santanché contro migliore su questo. Volevo dire la Santanché perché su questo siamo d'accordo. Più di sentire ste balle qua. Allora, le balle sono dire che questi sono due ragazzotti che hanno fatto un'azione, diciamo così, quasi meritoria a favore dell'azienda. Ma infatti c'è un processo. Allora, la questione. E lasciate liberi invece la quelli che in Italia rubano. Allora, Santanché, purtroppo, a differenza di quello che lei pensa, a differenza di quella. La pazienza l'ho finita. Ma credo che lei abbia finito un sacco di cose, diciamo, per la pazienza. Anche gli argomenti, probabilmente. La questione è che. Nonostante ci siano ben sederotto su una bella poltrona, bravissima, complimenti, complimenti. Dai, no, ma a proposito di carenza di argomenti dimostra no, la mia tesi, complimenti. Onde che chiudete, cornuti! Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta La Zanzara. Ragazzi, è semplice. Se volete dirci quanti schizzi di squirt avete raccolto col secchiello dello champagne, o volete partecipare a un matrimonio di trans escort, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece volete dirci quanto vi fa schifo la poesia Amico Rom, o volete partecipare alla grande battaglia in favore della calappia Rom della Lidl, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393-7171-701. Siamo in gabbia toppa. Allora, caro David, nel weekend c'è qualcosa che non va in questo audio che quel perfido criminale di regista, ma c'è sempre qualcosa che tocca, cioè lui la varia, quel bastardello lì, no, quel bastardello non sta... che ah, chiama, questo è in tonso. Le tematizza ogni volta quel bastardello, ah, quello là, no? Sì. Sì, quel bastardello che chiama, le tematizza tutte le volte, però poi c'è sempre una cosa che ritorna sempre, che gli ascoltatori possono fare, strano. Comunque ragazzi, nel weekend da più parti ci sono state delle messe, delle cerimonie in onore del signor Mussolini, morto il 28 di aprile. Devo dirti la verità, caro Parenzo, fa molto scandalo questo, quello che è successo a Milano, dove non so credo, dove, in un cimitero. Nel cimitero maggiore, certo. Mille persone si sono radunate. No, un momento. Mille fascisti. Va bene, mille persone che... Mille neofascisti. Ma che neofascisti. Mille neofascisti. Vabbè, mille neofascisti. Si sono radunati, hanno fatto... Bene, la cosa che mi dispiace è che se fosse intervenuta immediatamente la polizia avremmo immediatamente, non dico arrestato, ma preso i documenti, nomi e cognomi eccetera di queste mille persone che hanno fatto una adunata sediziosa e commesso un reato. Ma che adunata sediziosa? Hanno fatto il saluto romano, hanno detto due cazzate. Ex legge Mancino, hanno commemorato, hanno in libertà di gesti, si può fare il pugno chiuso, si può fare il pugno chiuso, nulla è uguale, sempre crimini ci sono stati. Tu sei un crimine, ma non il pugno chiuso non è un crimine. Pugno chiuso e braccio teso. Ma allora come mai anche il prefetto ha detto cosa, che è la misma cosa, come si dice, è esattamente la stessa cosa, proprio un chiaro. Ma il prefetto sì, si deve adeguare alle leggi, ma poi non succederà un cazzo. Ah, dai. Meno male che purtroppo invece non deve succederà succedere. Un cazzo, dai, deve non succederà succedere, un devono cazzo. Devono essere individuati uno a uno. Allora il uno Papa ha detto, uno. Il Papa ha detto, sei ridicolo far perdere tempo ai magistrati uno per individuare uno. Mille, mille che hanno uno fatto uno. Il saluto romano, dai. Casa per casa, strada ma per strada. Ma che cazzo sei? Dei rastrellamenti democratici. Ma si vai chiamano. A cagare. Vanno individuati perché sono contro la legge. Ma uno a uno vanno individuati. Uno a uno. Lei come si chiama, scusi signor camerata? Benissimo. Lei dov'era quel giorno? Era lì, era lì. Ma sei ridicolo, dai, sei ridicolo. Uno a uno vanno allora, individuati, uno a uno. È tornato a parlare di nuovo il signor Papa, per carità, può parlare tranquillamente il signor Papa. Di nuovo i centri di accoglienza come campi di concentramento, signor Papa. Avanti, avanti un'altra del Papa, via. Altro ma buonismo, altro politicamente corretto. Ma non altre ma cazzate. Ma perché sei altre proprio, cazzate, sei via. Proprio figlio del tuo tempo, guarda. Ma non sono figlio del mio tempo, dico sei, quello che penso, l'ho sempre fake. Pensato, l'ho sempre fake pensato. Sei che c'entra fake news, tu sei la post verità. Che c'entra? Tu sei la post verità fatta a persona. Ma che c'entra? Sei la post verità, sei un fake. Sentiamo il Papa, dai. Fake news. Cosa c'è? Ci sono campi di concentramento. Scusa, sì, campi di rifugiati che sono veri campi di concentramento. C'è qualcuno forse in Italia, qualcuno in altra parte, in Germania no, sicuro. Di Maio, le istituzioni cercano di insabbiare il caso dell'ONG. Mamma mia, Di Maio. Il famoso traghettamento degli immigrati dal mare direttamente in Italia. Cioè, continuiamo ad aumentare le balle praticamente. Ma dai, su. Vuoi negare la realtà? Vuoi negare la realtà? Non la c'è realtà nessuna è prova. Che, è che in acque libiche vengono prese delle persone e vengono poste sì, e vengono soccorse, messe certo. In. No, non vengono soccorse. Sì, vengono soccorse. No, vengono prese. Anche se non stanno per annegare, vengono prese e portate in Italia, ma è così, questo è abbastanza evidente. Ci sono dei taxi praticamente. Assolutamente. Assolutamente. Lo dici tu o poi può essere legittimo. No, ma uno può dire, a parte che lo dice il procuratore, ma al di là di questo. Chi lo dice? Signor Zuccaro. Il signor Zuccaro di Catania, il signor Zuccaro, il procuratore Zuccaro, che sì. Adesso ha un bellissimo procedimento presso il CSM, sì. Presso il Consiglio Superiore della Magistratura. Che non succederà un cazzo, che non succederà un cazzo. Procedimento tu dici che è una zucca vuota, tu dici Zuccaro è una zucca no, vuota. Questo non l'ho detto. Però, no, ma... però Però volessi fare un paragone con delle verdure, volessi ma non lo faccio. La paragone è non una zucca. Succede, ma se succede, sì, potrebbe essere paragonato anche al signor Zuccaro. Vabbè, paura di essere correlato da Zuccaro. Vai, Di Maio, no, dai. Indagato, perché Di in Maio. Questo caso avrebbe le prove anche, capito? Questo sarebbe l'unico caso nel quale quello ha le prove, perché ha l'audio nostro. Dice, ma Lorenzo Matto della Zucca. No, ho detto se per caso, però hai le prove. Qui il nastro c'è e se vuoi lo puoi utilizzare. Nel resto del processo non hai nastri, non hai prove, lo hai detto tu stesso. Ce li ama, non li può utilizzare, è diverso. Di Maio. Invece a me sembra che sul caso NG una parte delle istituzioni italiane stiano provando ad insabbiare il caso accusando me o addirittura il procuratore di Catania di aver sollevato un vespaio senza prove. Va bene ragazzi, partiamo, vai ragazzi, Davide Bologna, via, carichi anche oggi 1° maggio. Noi siamo qui a combattere con voi su mille fronti, compreso questo della Lidl per quello che mi riguarda. Parenzo non è d'accordo, ma io faccio una grande battaglia per la libertà di questi due che sono stati accusati ingiustamente di avere semplicemente fatto uno scherzo e per questo licenziati dalla Lidl, dai signori della Lidl. Sì, perché hanno leso l'immagine di quell'azienda. Davide Bologna, pronto. Dimmi. Ciao Giuseppe, ciao. Dimmi. Io ho chiamato l'altra sera perché sono indignato per il licenziamento di questi due disgraziati. Sì. Quindi anch'io come te non sono mai stato alla Lidl o ci sono stato pochissime volte, ma invito tutti quanti a boicottare la Lidl. Questi qua dovrebbero meritare una medaglia, sono stati due aziendalisti. In altre aziende queste persone qua dovrebbero essere premiate. Hanno trattenuto due ladri, persone che stavano recando danno alla in propria azienda. In realtà era uno scherzo, eh? Cioè, vabbè, erano... è uno scherzo, però insomma... Lì, la realtà è che queste qua non potevano mai entrare, ma da quello che mi hanno raccontato... entravano sempre e l'azienda lo sapeva in questa zona protetta dove in realtà c'era merce che era destinata alla discarica. Perfetto. Questo è il punto. Arrecando danno all'azienda perché una persona che entra in una proprietà privata senza controllo, senza nessun tipo di registrazione. No, ma non c'è dubbio, non c'è è dubbio. Un danno per l'azienda, quindi sì, l'azienda dovrebbe premiare questi due. Ma adesso premiare non lo so, arriva, In ogni caso, Davide, la vergogna è che sono stati licenziati per aver fatto uno scherzo, per aver mandato online. Ma non lo decidi tu. Per aver mandato hanno certo che reso l'immagine dell'azienda. Stefano Reggio Emilia. Pronto, sì? Vai, dimmi Stefano. Sì, volevo dimmi. Intervenire anch'io in merito a... Dimmi, forza. All'argomento che hai introdotto. Sì, vai. Io sono in perfetta sintonia con quello che hai detto. Sì, che tutti, peraltro tutti garantisti adesso improvvisamente. Vai, Stefano, no, dimmi. Ma non è questione di garantismo, è questione che è un provvedimento tutti. Abnorme. Licenziare due persone, poi interviene, come si chiama, il sottosegretario alla giustizia, cariche politiche si interessano di questa cosa. È ovvio che come si sono interessati del furto delle solo valigie, perché c'è di mezzo. Ma neanche avessero fatto chissà cosa. Non hanno rubato nulla, è un paragone vergognoso quello che hai fatto. Non hanno rubato nulla questi qua, non sono come... Ho detto che io non difendo i lavoratori a prescindere. Se un lavoratore commette un illecito, è un illecito. Ma qual è l'illecito? Non c'è nessun illecito qua. Scusami un attimo, hanno commesso una bestialità. Una bestialità che l'azienda privata ha ritenuto... Allora volevo dire che a volte Cruciani, anche se non è, mi sembra l'unica persona che abbia del buon senso in Italia. Ma no, ma non è questione di buon senso qui, è questione di opinioni. Che fa peraltro Parenzo, non so se per frutto di calcolo o non so. Ragazzi, cosa. Se qui non c'era di mezzo una Rom e non ci fosse stata una mezza sollevazione da parte delle associazioni altro, e se tutti quanti non gridavano "Dio, il razzismo, hanno imprigionato le Rom, i campi di concentramento", era uno scherzo da parte di una che era una frequentatrice abituale di quel supermercato. Cosa c'entra? Che commetteva evidentemente dei reati o comunque molestava, disturbava i clienti. Ma tu molesti ogni giorno? Ma cosa vuol dire? Dai, su, ma che vuol dire? Ma cosa dici? Io lo faccio legalmente, cioè, oddio, legalmente non lo so, ma comunque questo è da... Roberto, provincia di Pordenone, dai. Pronto? Roberto, dimmi. Sì, pronto, mi sente? Sì, dimmi. Sì, allora, io volevo dire a Parenzo se è una persona di sinistra e una persona di sinistra come lui può rappresentare gente onesta che lavora, indipendentemente dallo scherzo che è stato fatto. Io mi vergogno, no? Te lo dico con tutta sincerità, le parole uscite fuori da quel personaggio, io non voglio neanche... Qual è il personaggio? Additare, il personaggio è Parenzo. Parenzo che si schiera con i disonesti. Chi sarebbe i disonesti? Si schiera con i disonesti, i rom della situazione, sì. Dov'è? tu stesso hai enunciato, è quello che è stato scritto anche sui giornali di questi personaggi, che in poche parole ho capito, però comunque sia il senso, io ti invito di riascoltare la trasmissione, il senso di Parenzo, le parole di Parenzo sono state quelle di schierarsi con delle persone disoneste. Fermo là. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato non... lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! Il segnale orario vi è offerto da... Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it, col TH. La Zanzara. Oh Giuseppe! Un mese che mia moglie ti ascolta è passata da comunque proprio un maleducato Cruciani. Oggi la vedo, io comunque me lo scoperei Cruciani. Parenzo no, ma Cruciani sì. Ah vabbè. Crucia, ma niente fosse pure ricchione. E volevo chiedere una cosa al dottor Parenzo. Io mi ritengo della maggioranza silenziosa, però ogni tanto lo metto nel culo alla mia amorosa. Posso rimanerci lo stesso? Parenzo, che dici? Dottore, uscì il 1° maggio, io lavoro. Dottore, uscito, pulito, casa. No, tutto, ma la domanda lindo, lindo, si lindo. Può richiamare un attimo, Parenzo, perché c'è una domanda di un ascoltatore: se può rimanere nella maggioranza silenziosa oppure no. Dottore ha detto che porcherie del genere non si dicono ladio. E quindi ha scritto biglietto proprio, non vuole parlare, ma ha scritto biglietto. Dice di dire che maggioranza silenziosa non deve dire porcherie in radio. Ah, ho capito. Può fare porcherie a casa, sotto privato, copente, nel privato, usare anche bottiglie e tutto quello che vuole, ma non dire alla radio. dottore un cazzo. Allora andiamo questo subito, è sempre la corte, sempre. Tanto per andiamo, no, per subito dire. A Pescara, lo stesso che fa il telegiornale tutto il radiogiornale tutto compunto, andiamo alla computo, parte che vuol dire tecnica, computo? Che cosa vuol dire alla, computo? Alla parte tecnica, alla regia, Piero la corte, ora la linea passa alla Zanzara e poi trans cose. Dai ragazzi, su. Giuseppe da Pescara, vai. No, Giuseppe. Ho sempre pagato così, perché adesso pagare di più? Ma con chi sta parlando? Perché no? Metto la mano per un tassi. Ma fare tutto insieme? Perché no? Con chi sta parlando? No ragazzi, però non si può fare, cioè prima ti fanno un prezzo, poi... Ma con chi stai parlando? Scusa, con chi stai parlando? Ma Peppe, con due ragazzi qua. Ma dove? Ma se mi sembrano delle voci cinesi. Massaggio per 30 euro, va bene? Ma massaggio, solo massaggio anche... Ok. E allora aspetta che vado a prelevare soldi e poi... Sì. Passamelo un attimo, fai finta che è un tuo amico. Sì. Fai finta che è un tuo amico, passa. C'è anche mio amico qui che vuole venire a fare massaggio. Se facciamo tutti e quattro insieme. Ma che quattro? No? Ma io non faccio nessun massaggio. Ma perché no? Ma passami un attimo sta cinese. Il mio amico si chiama David. David fa sempre massaggi. Ma lei verrà denunziato? Aspetta. Ma quale David? No, lui sempre David. Tu non fare? Parla con mio amico. Aspetta, parlo io. Fai massaggio. Pronto? Perché tu parli bene italiano. Sì. Ma dove sei? Dove stai trattando? Cosa stai trattando? Da Bologna. Guarda che porcheria. Ma è non rompere i coglioni, dai, che no, non ci stanno, niente. Ma non ho capito. Niente, devo andare via. Ma sei in un centro massaggio? Comunque, Peppe, sei? No, dimmi. Io ho chiamato per un'altra storia. Nostro amico disabile, poverino, 18 anni, che aspetta, però fammi capire, se non puoi, no, ma io aspetta, ti faccio parlare un attimo. Tu non è che puoi far passare in cavalleria questa cosa qua, David. Dentro al centro massaggio. No, cioè, ma per capire. Sempre. Ma no, 1° maggio, dai, che cazzo vuoi fare? Festa del lavoro, fare il seghino. Cioè, ti puoi fare il seghino in un centro massaggio cinese. E allora che cosa facciamo? Noi siamo andati a fare questa festa di 18 anni per questo ragazzo che c'ha un sacco di problemi, l'abbiamo portato a Mignotte. Il padre, che fa il dirigente finanziere, dirigente della finanza, è incazzato, no, non dovete farlo, questo ci va sotto. Cioè il padre del disabile, il padre del disabile. Sì, il disabile, però ragazzi, 18 anni non ha mai trombato, che cazzo doveva fare? Allora? Secondo te abbiamo fatto bene o male? Benissimo, abbiamo che bene. Fatto bene? Sì, ma è andata bene la cosa oppure no? No, no, è andata bene, poi ho parlato con la tipa, abbiamo pagato prima. Ma questo dove? Tutto, in una casa privata? Parma, adesso non è che possiamo dire... No, mica voglio sapere. Praticamente l'avete portato a Mignotte questo disabile? L'abbiamo portato a Mignotte, si è divertito un casino, adesso tutte le volte che ci vede, che andiamo a cena insieme, vuole andare a Mignotte. Ma questo è un problema, questo, è un comunque, questo può essere un problema. Comunque, ti devo salutare perché queste hanno detto che per 35 euro mi fanno dei massaggi, adesso non nudo. Sul lettino mi... Ma che massaggio cominciamo. È? Che massaggio ma è? Ma il solito, grande classico. Cioè che si finisce... Ciao ragazzi, viva la zanzara, viva la zanzara! Ciao. Bah. Dei mostri, create dei mostri. Ma no, ma gente normale dei che mostri, passa, non è gente, che non chiama la zanzara mentre sta normale, entrando in un centro massaggio cinese per fare quello che si fa in questi casi. Su questo non mi convincerai. Ma mai. Cosa non è gente normale? Gente va. Normale. Vabbè, non è, non gente... è gente normale, è uno spaccato agghiacciante di un paese. Però ormai... vedi, la cosa straordinaria di questa trasmissione è che alle 19:24 del giorno dopo le primarie per la segreteria del PD non abbiamo mai pronunciato nemmeno una volta il nome di Renzi. Mai. Pensavo volessi partire da lì. Insomma, ne sono molto orgoglioso, ma mica per Renzi, però voglio dire due cose. Primo, lo dico subito, non sono andato a votare le primarie, come hanno scritto in 50 su internet, ma detto, allora hai votato, no, non sono andato a votare, faccio un altro mestiere, non vado a votare per le primarie di un partito. Vabbè, questo che c'entra, non è che se uno fa giornalista non può andare a votare per le primarie di un partito, cosa c'entra? Faccio il giornalista, io non sono andato a votare per le primarie del partito, posso essere... Ah sì, l'altra volta è andato a votare, che c'entra? No, mi ricordo benissimo. Errore clamoroso, non sono andato l'altra volta a votare. Comunque, ragazzi, non è che se uno fa giornalista non può andare a votare per le primarie del PD, non dire cazzate. Ho detto io non sono andato a votare. Sì. Io non sono andato a votare. Per comunque, le in ogni caso, ragazzi, a me non me ne frega assolutamente nulla. Tu sei andato a votare? Ma no. Ma figurati se vado a votare, non sono manco del PD. Che cazzo, comunque, una grande manifestazione. Ecco, io non capisco quelli che criticano. Non capisco quelli che criticano la partecipazione, dicendo erano 2 milioni di più o 1,7 milioni di più, 6-7 anni fa, o 4 anni fa, 5 anni fa, non so. Beh, cosa c'entra? Indubbiamente. Ma non c'entra nulla. È stata una grande partecipazione popolare, questo sicuramente. Popolare, sono 2 milioni di persone, ognuno ha i suoi metodi. Quelli c'hanno i click, quegli altri portano la gente nei seggi a votare. I click su internet, che poi ogni tanto vengono ribaltati dalle decisioni del capo. I click su internet. Che adesso il capo ha cominciato a contestare anche i click su internet, in realtà, come nel caso di genere. Ma comunque, ma va bene lo stesso, per carità. Però non è che si può dire quelli no, quella non è democrazia, quella è una cazzata, quella è un metodo qualunque. È un metodo, sì, 2 milioni, va benissimo. Beh, per diciamo carità. Che rispetto al rispetto al centrodestra, dove decide un accordo tra partiti con Berlusconi, che è azionista di maggioranza. Esatto. Qui ci sono 2 milioni di persone su internet, qui ci sono 2 milioni che... in carne e ossa, che sono usciti di casa. Qualcuno ha dato pure i 2 euro per votare, ovviamente. E hanno votato il loro candidato alla segreteria del partito. Cioè, mi pare una cosa interessante, bella. Ma sì, un segno di vitalità sì. della democrazia. Non capisco, diremmo, le critiche, no? Uno può anche fottersi a dire il PD è una merda, però le critiche a questa roba qua mi sembrano francamente ridicole. Meno male. Mi sembrano ridicole. Bravo. Io non esalto né denigro, però dire è una merda, tutto truccato, gli immigrati eccetera, sì, ma sicuramente ci sarà qualche trucco. Anche io, che non sono del PD, potevo andare a votare volendo, no? Certo, potevo... che si è passato, sicuramente dovevi potevo andare euro. A votare, davo 2 euro, si è andavo passati a votare. Però dai 4 milioni rotti, non bene, mi ricordo, sì, del 2005, ma chi per se ne le frega. Primarie per eleggere il grande Romano Prodi, che è stato praticamente il miglior presidente del Consiglio che abbia mai avuto, sì, ma si è passati dai 4 Uno milioni rotti delle primarie premier del 2005 ai 2 milioni, ma va benissimo, però in America nessuno si scandalizza per la partecipazione ridotta, dai. No, ma sembra uno straordinario risultato. Vabbè, comunque ragazzi, Carminati continua ad impazzare, nonostante sia in galera, chiama la gente a rotta di collo, perché è incazzato, perché è incazzato che la procura, l'accusa ha chiesto 28 anni di galera. È incazzato e continua a chiamare ma persone. Chi chiama? Qui alle prese con Emilio Fede, senti. Sono lo stronzo. Io mi chiamo Massimo Carminati, senti te lo sto nome. Cosa sei? Io mi chiamo Massimo Carminati, senti te lo sto nome. sparati un colpo nel culo a te e con la troia di tua madre. Massimo Carminati, segnalo, capito? Segnatelo. Massimo Carmina, segnatelo tu, figlio di puttana. Cosa Massimo Carminati, segnatelo, così vai su internet e vedi chi sono io. Bastardo. Segna il suo nome, ascolta a me. Così no. Vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Tu sei un ladro, figlio di puttana. Io sono quello che abita là. No, uno stronzo. Segna il suo nome, ascolta a me. Così no. Vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Metti il numero di telefono, sai le palle. Metti il numero di telefono, stronzo. Te e Massimo Carminati, segnalo. Capito? Segnatelo. Culo. Te e Massimo Carminati, cornuto. Se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non mi frega un cazzo, vado su fatto. Poi venga a cercare te. Allora ragazzi, andiamo a Trento. Giuseppe, vai Giuseppe, ragazzi, vai. Finalmente, innanzitutto un appunto, perché in questa trasmissione giustamente si esalta spesso l'estro dell'ottimo signor La Corte, sì. Però mai ringraziate i vostri ottimi collaboratori, sì, che bravo. Rispondono giornalmente, bravo. Al telefono. Sì, assolutamente, però siccome non vogliamo rompere i coglioni a nessuno, facendo la lista dei collaboratori lunghissima. Riccardo Poli, ottimo Longoni. Ogni giorno a Donato da Varese, Mauro De Tra Laura Marchesi, che peraltro aspetta anche un bellissimo figlio, pensiamo sia di Cruciani, ma non abbiamo le prove. Ma perché per devi attaccare così le persone dire. Che qualcuno magari ci crede pure? No, scherzo. Vabbè, Giuseppe, un abbraccio fortissimo alla nostra Laura Marchesi. Vabbè. Comunque, sì. Volevo parlare con te, Parenzo, della questione di Zuccaro, per con favore. Con educazione. Perché proviamo a introdurre la buona educazione, perché vedrai, certo. Che la buona educazione, ecco, questa è la teoria di oggi, la buona educazione porta buona educazione. Ragazzi, cattiva avete educazione. Già rotti i coglioni, Giuseppe, che vuoi dire? Educazione porta... Giuseppe, già mi hai fatto due coglioni, hai fatto un minuto, mi hai fatto due coglioni che mi sono arrivati giù dalla sedia, già. Amico mio, dai. No, ma stai buono un cazzo, dai. Parenzo, stai strumentalizzando la questione esattamente come i leghisti con i quali ce l'hai tanto. Per me non è uno vale uno. In questo caso l'opinione del magistrato Zuccaro vale più della tua, semplicemente perché lui ne sa più di te. Quindi è inutile che tu chieda le prove. Fermo là, fermo. Ma sangue tutto, solo culo, niente, capito? Sì, questo l'ho capito. Cioè tutto, anche rapporto, tutto. Sì, culo, niente. Sì, ma questo l'ho capito, culo, niente, questo ho capito. Vuole massaggio romantico. Culo, niente. Per una notte romantica. Culo, niente. Impreparato mi coglie. Ehi, cosa fa? Capito? Chi glielo spiega a mia moglie? Massaggio tutto. Vai col massaggio romantico. Oh, oh. Vai con la notte romantica. Ma quanto è brava la Cina! Sì, solo culo niente, capito? Nell'arte della... Ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Manina. La zanzara. Guarda, veramente i rom sono utili come due coglioni sotto al mento, è una cosa inconcepibile. Dai, denunciami, Parenzo, io te l'ho già detto un mese fa che io delle tue denunce mi sciacco i coglioni, hai capito? Allora, caro David, ieri sera sono stato al concerto del mitologico Ruggero dei Timidi. Ruggero dei Timidi. Che ho scoperto una nuova canzone. Bravo. Una nuova canzone che parla di una cosa che non so se tu hai mai. Hai mai sentiamo. Identificato? Capiamo. Non so se tu hai mai sentiamo. Avuto problemi di questo tipo. Quali non so sentiamo? Se tu hai mai affrontato nella tua carriera amatoria, sì. Perché di questo si tratta, dottor... il problema fondamentale della candida. Ti è mai successo? Dottore, è uscito veloce di corsa. Ma che c'entra? Adesso il signor Ruggero parla di queste cose qua, senti. Ci frequentiamo da un po', ma non so perché non mi vuoi amare. Cara, cosa ti frena? Vuoi rimaner pura? Hai un altro, forse non mi vuoi. Ma stasera ti sei concessa a me. Adesso arriva, eh? E finalmente ho scoperto che tu hai la candida. Sì, tu hai la candida. La candida voglia di amare solo me. Naturalmente. Tu hai la candida. Sì, tu hai la candida. Ruggero, ho scoperto che sì, il quello che canta le nostre peripezie quotidiane del sesso. Praticamente è un sessuologo, cioè, non è un cantante. Un grande sessuologo, beh, ecco, un grande sessuologo. A chi è che non è mai capitato di prendersi la candida? Adesso, Parenzo, una volta nella tua vita la candida l'avrei presa, quella specie di ricottina che si forma che puoi trovare nel sesso altrui. Ah, dottore, cioè, è uscito con dilettole gentili. Dottore, è uscito con dilettole sole 24 ore. Non può parlare. Ma ti sarei preso la candida qualche volta. Dottore è uscito col dilettone sole 24 ore. Non può parlare perché lì è. Di amare solo me. Allora Mirko d'Ancona, vai Mirko. Pronto? Dimmi. Parenzo ha perfettamente ragione. Cioè, hanno ripreso due rom solo perché rom meritano di essere sbeffeggiati? Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Hanno fatto benissimo a licenziarli. Ma hanno fatto benissimo cosa? Perché hanno fatto benissimo? Spiegami. Perché hanno fatto benissimo? Sì. Fai un video, lo posti su Facebook, prendi in giro due persone. Ma cosa significa? È un video che hanno fatto. Guarda, le cose sono. No, sai che è ingiustificabile. Che è ingiustificabile? È una cosa talmente ingiustificabile che non dovrebbe neanche essere discussa tecnicamente. Ragazzi, ma non dire stupidaggini, dai, tu stai giustificando il licenziamento di due persone che hanno postato un video fatto scherzosamente con una signora rom, che peraltro era stata invitata ad uscire, perché i due li avevano invitati, quel gruppo di persone lì che hanno poi postato il video su Facebook e su internet, avevano invitato le due rom ad uscire. E poi fra poco riusciremo a metterci in collegamento Ramon Zurita ce lo dirà, uno dei due che è stato licenziato. Puoi chiamare la polizia, puoi fare tante cose, ma non era da chiamare la polizia, perché l'azienda li prende in giro. Ma dai, che li chiudi in gabbia se era aperta quella roba lì? Dai, era aperta la gabbia. Ma quale gabbia? Ma non era una gabbia. Non erano due rom. No, cos'era? Venivano anche querelate. Cos'era? Venivano anche querelate. Cioè, tu dici, se non erano rom, un'altra persona. Ma fatto sta che là non è che ci vanno le persone qualunque, ci vanno i rom a prendere la roba. Ci vanno i rom. Ci vanno i rom. No, lo sanno loro che quella lì era una frequentatrice abituale insieme ad altri rom di quel supermercato, dove comunque ne combinavano di cotte e di crude. La tua campagna rispetto alla decisione di un'azienda privata che applicando Lidl, una regola. Io non entrerò mai più alla Lidl, primo. Secondo, uno dei due o tutti e due vanno subito assunti da qualche imprenditore di buona volontà che si ribella a questo buonismo diffuso. Dalle guardie carcerarie. Ma smettila, dai, su. Ciao Mirko, hanno il curriculum perfetto. Pietro da Cuneo, vai. Ah sì? Dimmi Pietro, dimmi. Giuseppe, ti voglio dire una cosa. La tua mezza segreta che parla con te. Buonasera, benvenuto alla trasmissione. Sì, come sta? Sì. La gentilezza sconfiggerà la cattiveria. Buonasera. Ma pianta la radical chic. L'educazione. Buonasera. Intanto io la abbraccio. Me la segnala l'educazione, caro. Sì, intanto grazie per aver telefonato. Ci dia il suo contributo, per cortesia. Ma fa tuo testa di cazzo. Buonasera, allora. Benvenuto, amico. Lo fai parlare o no? Lo fai parlare? Prego. Parlare, stronzo. Prego, il mio contributo è questo. Prego, amico ascoltatore. Ti ascolto, amico ascoltatore, dimmi. No, non me ne frega niente che mi ascolti te. Ascolto in silenzio, amico ascoltatore, e ti abbraccio forte. Allora, perché anche tu hai un cuore, amico ascoltatore, sono sicuro. Anche tu, amico ascoltatore, hai un cuore. Ma vaffanculo, porco Giuda. Amico ascoltatore, amico ascoltatore, ti abbraccio con tutto il mio calore umano. Vedrai che la tua cattiveria si trasformerà in bontà. Vai, amico Pietro, ascoltatore. Vai, continua, la mezza sega è vicino. Continua a dire che la Lidl è una grande società. Una grande azienda, certo. È una società che nel 2016, e lo dico, Ecco la fake. È stata multata per 550.000 euro per pubblicità ingannevole. Non riesco a controllare se sia vero o no. E questo cosa c'entra? Probabilmente anche questo comunque non c'entra una mazza. Cosa c'entra 28.000 No, perché il tuo amico lì che continua a dire grande società. Ma che grande società? Sono tedeschi come gli altri. Si è sentita lesa nella propria immagine e ha deciso di licenziare queste due persone che hanno messo quel video scemo. Tu saresti un radical chic di sinistra. Tu di sinistra non sai neanche cos'è la sinistra. Ma ascolti, amico ascoltatore. Pietro, non ha tutti i torti. Dice la sinistra in teoria dovrebbe anche difendere un lavoratore in questi casi. Ma non sempre. Ma non chi fa delle scempiate? Ma che vuol dire? Ma che scempiate? Questa non ha rubato niente. Un lavoratore onesto. Due lavoratori onesti. Onesti. Hanno fatto una cosa che non dovevano fare. Liliana, provincia di Pisa. Dai. Ciao Giuseppe, anch'io non vado più a fare la spesa da Lidl, sono proprio amareggiata. Sono d'accordo con te, bravo Giuseppe. Due persone chiudono una ROM, due ROM in gabbia, le riprendono come delle bestie e le mettono su internet e adesso arriva Liliana, la signora Liliana della provincia di Pisa, dice Giuseppe, anch'io non andrò più a Lidl. Ma se non vuole più andare a Lidl, saranno cazzi suoi? Sarà autorizzata a non andare più alla Lidl? Perché si tratta di due ROM chiuse in gabbia. Speriamo che trovino il lavoro subito. Ma le ROM non vogliono lavorare quelle là. Stanno lì davanti a fare casino, davanti alla Lidl, davanti ai supermercati. Non vogliono lavorare. Quella là, Margherita, non ha mai lavorato in vita sua. Non ha fatto un cazzo in vita sua. Andava lì a prendere la roba che rivendevano. Quindi è giusto chiudere in gabbia. Ma smettila con sta buffonata. Bravissimo. Chiudete in gabbia le persone. Signora Liliana, lei sa cos'è lo squirting, signora? Ma figurati. Ciao, come dimmi, scusa? Lei sa cos'è lo squirting, signora? No, scusa, 72 anni. Perché c'entra, scusa? Non ho capito. Le nostre lezioni sono servite a qualcosa sullo squirting oppure nulla, signora? Non lo so, scusa, Giuseppe. Si scusa, ti rendi conto? Cioè si scusa perché non lo sa, magari è una roba incredibile sta gente. Ciao, si scusa. Ciao Giuseppe, bravo, bravissimo. Sì, bravo. Con noi ragazzi uno dei protagonisti di questa vicenda, io spero che dopo questo intervento qui a Radio 24 possa succedere qualcosa, perché considero, nonostante quello che dice David, considero questo licenziamento profondamente ingiusto. Non considero ingiusti tutti i licenziamenti, questo è evidente, no? Se qualcuno ha fatto una cazzata, uno fa una cosa grave, è giusto che venga licenziato. In questo caso io credo che non ci siano i presupposti, ovviamente non è che lo decido perché io, perché la protagonista è una ROM, no, perché è la protagonista tutto illecito. Andiamo avanti comunque. Allora è con noi Ramon Zurita, buonasera. Buonasera. Ciao Ramon, ciao. Buonasera a lei. Quanti anni hai, Ramon, innanzitutto? Spieghiamo a chi ci ascolta. Quanti anni 32. Hai? 32. Era il tuo primo lavoro? Da quanto tempo lavoravi alla Lidl? No, è 3 anni. No, ho fatto tanti lavori, ho girato anche nel solito settore più o meno. Sì. Non è la prima esperienza lavorativa. Cosa facevi esattamente alla Lidl, Ramon? Io sono addetto vendita. Ha detto vendita, mette a posto. Poi la Lidl, diciamo, c'ha vari gradi, ma poi alla fine tutti fanno tutto. Allora, Ramon Zurita è stato. Io spero davvero che qualche imprenditore che abbia i coglioni e che si ribelli a questo licenziamento lo assuma. Per quello che vale, Ramon Zurita, se ovviamente ci sono i presupposti, non perché è stato licenziato, semplicemente perché magari uno che sa fare quello che è il suo mestiere. Questo è quello che penso io. Ramon Zurita ha 32 anni e qualche tempo fa, qualche mese fa, come sapete, è stato protagonista di questa vicenda di cui vi stiamo raccontando, cioè a dire un filmato messo su internet. In realtà lui lo ha messo in una chat di dipendenti della Lidl, poi qualcun altro l'ha fatto circolare. Ed è fatto di averlo ripreso comunque. Ed è scoppiato il finimondo. È stato accusato di razzismo. Quella gabbietta è stata considerata una specie di prigionia per la Rom. Allora, io voglio che Ramon prima ricostruisca la vicenda. Questa Rom si chiama, credo, Margherita, giusto? Sì, Margherita, l'abbiamo soprannominata noi così, non so come la chiamavate, Margherita. Realmente, che sì. Cosa faceva lì alla leader? Era una frequentatrice abituale oppure no? Sì, è sempre lì. Ora non c'è più perché è uscito, insomma, un bel caos, però è lì da anni. Cosa lì, fa? Allora, praticamente, a parte l'accattonaggio e a parte tante volte a ruba negozi, tante volte noi l'abbiamo beccata, mentre un episodio su tutti, una volta entrò scalza, uscì con le ciabatte, con le Crocs, quindi nel senso non è che... C'era una che faceva anche dei furti dentro la Lidl? Sì, l'ha fatto. Cioè l'azienda lo sapeva? Sì, lo sapeva, e il problema è che non può far nulla, perché poi dal momento che veniva fuori questa cosa qui, l'azienda poi ti dice: io me ne lavo le mani, se vuoi fare la denuncia falla te da privato. E uno allora a quel punto, cioè, quello che dice a voi, è quello che dice a voi dipendenti, sì, non ho capito. Anche il problema che c'è stato, che tanti dicano: ma come mai non avete chiamato i carabinieri? Il problema è che sono sempre venuti i carabinieri. Loro poi vanno via, e quando vanno via i carabinieri, loro 10 minuti dopo ritornano. Sì. E la stessa cosa succede. Vuoi che gli zingari vadano via dal parcheggio della Lidl? Bene, denunciali te. È quello che dice l'azienda a voi. È quello che dice l'azienda a noi, lo fai te da privato. Ecco, al di là dei furti, aspetta, adesso torniamo su di te. Al di là dei furti, che cosa faceva questa zingara insieme ad altri, evidentemente, lì? Cioè, furti. Allora, innanzitutto, ci tengo a precisare, perché stavo sentendo e mi ero collegato da poco. Sì, sì. Nessuno ha chiuso nessuno lì dentro, nel senso che io non ho preso di peso una persona, l'ho messa nella gabbia e l'ho sbeffeggiata. Poi ci tengo a precisare una cosa più importante: io ero in pausa, non ero in orario di lavoro. Come è stato detto, uno lavora e fa quello che gli pare, no? No, io penso che ho sempre portato molto rispetto all'azienda e ho sempre lavorato in base a quello che so fare. Questo d'accordo. Cioè, voi a un certo punto, com'è avvenuto il fattaccio? Siccome si scherzava, lei lì non ci può stare. Noi scherzando gli ci ha detto: guarda, poi ti si lascia lì, Ma sì. E sicché poi dopo si è chiuso. Sì. Io poi ho preso il telefono e l'ho filmata. Allora, le urla sono finte, perché Andrea gli si è detto: dai, urla, fa un po' di scena e ti si riprende. Fa toccati la mano e lei faceva così. Cioè, okay. L'ho fatto per finta, non erano urla. L'ha fatto per finta, ma perché con lei ci sono delle foto, lo fa sempre, ovvio. E comunque ci sono anche delle foto, e noi con lei ci sarà un rapporto. Sì, questo l'ho visto. Quindi, rapporto poi, con una potenziale ladra, uno scherzo, cioè, ci sta dicendo poi, che quando è chiusa, lei ci dice: sono due e le porte si aprivano, le potevo uscire in qualsiasi momento, quindi non c'è sequestro di persona. Poi ho sentito dire che noi ci abbiamo un processo, noi non ci abbiamo niente di niente, nessuno ha denunciato nessuno, noi a livello penale non abbiamo niente, ok? Quindi, cioè, penso anche le notizie vanno riportate in maniera corretta. Voi non avete nessuna indagine per sequestro di persona in corso? No, nessuno, ma anche perché non c'è nessun sequestro di persona. Cioè, a livello legale, la porta si apriva, erano due porte e le porte lei si apriva. Ma basta pensare, se uno c'ha un minimo di obiettività e coscienza, ma se lei urlava e c'aveva tutto questo terrore, come mai l'altro continuava a prendere la roba e rideva? Sì, ma no, ma perché quello che ho sempre scherzo, detto io, ho sempre perché detto. Era uno scherzo, punto. Poi ci tengo a precisare ancora un'altra cosa. Sì. Quello che buttiamo noi lì non erano cartoni, cartoncini o spazzaturina, che si dice. Io faccio un esempio su tutti. Noi lì dentro vendiamo dei prodotti, soprattutto quelli a marchio Lidl. Io ti faccio un esempio, come può essere una cassa d'acqua, di bottigliette piccole, che si vendono a confezioni intere da 6. Sì. Allora, purtroppo tutti i clienti non leggono i cartelli, a volte aprono la merce. Quando te apri una bottiglia e la levi da quella confezione non è più vendibile. E dunque quindi la mettete cosa là. Fai? La butti via. Butti via 6 casse da 6. E che ci facevano d'acqua. Loro con quella roba? Quante persone venivano a prendere ogni giorno quella roba di Rom? Venivano in tanti, saranno state almeno 7-8. Siccome viene detto: e che facevano con quella roba? Se c'erano italiani, c'erano anche italiani. E la rivendevano a gente anche più povera di loro. Perché la rivendiamo via, questo c'entra, perché siccome è un problema che loro lì non ci possono stare e noi non si butta via, e noi si butta via merce buona, come possono essere confezioni Coca-Cola. Ma quindi è giusto di vino. Che chi non ha soldi le possa prendere, ma oppure no, abbiamo perché modo non di ci può entrare là dentro, perché non... se lei mangia una cosa e fa conto si sente male, passo di guai io, perché l'ha presa lei lì da mangiare, quindi non è giusto. Quindi l'azienda cosa fa allora? dice che è un problema, bene, la RDA ha qualche associazione, come hanno detto in tante televisioni. Questa è un'altra questione. Allora, però, torniamo all'inizio, scusa, tema Ramona, che non sta allora, tu perché sei stato licenziato? Aspetta, perché sei stato abbiamo licenziato? Abbiamo sempre avuto un rapporto con questa che ha definito ladra. Io sono sempre stato licenziato per motivi disciplinari. Un'altra cosa, poi sono stati adottati due pesi, due misure, perché l'azienda lo sapeva dall'inizio, mi avrebbe licenziato, ma ha aspettato il 30 d'aprile che scadesse il contratto al mio collega, perché io ero fisso e lui a tempo determinato. Vabbè, un'altra cosa che ti voglio dire, tu sei stato licenziato per aver procurato un danno d'immagine, per motivi disciplinari. Sì. Cosa che comunque il danno d'immagine l'ho subito io, perché insomma sono rimasto senza lavoro, sono uscito nelle televisioni con la mia faccia, sono state dette falsità, perché sono state dette tante falsità a discapito mio, quindi l'azienda penso nessun danno sei stato tu che hai subito un danno d'immagine per sì, questa vicenda. Anche cioè, perché la vittima diventa io e l'ho messo il video l'ho fatto io, ok, e l'ho fatto io e l'ho messo in una chat di WhatsApp dei dipendenti, poi da lì l'hanno fatto uscire e da lì l'hanno pubblicato, quindi cosa vuol dire? Che il danno me l'hanno creato, io sono stato licenziato, ok, e qui al posto di parlare che uno può perdere la privacy e può avere un danno economico d'immagine enorme e nessuno sa chi è, perché io ad oggi non so chi l'ha messo su Facebook. Avresti accettato un provvedimento diverso da parte dell'azienda, che ne so, cioè tipo una... Ma io sì, ma io pensavo che mi facesse una multa, ma io guarda, sarei andato anche 3 mesi a lavoro gratis e continuavo a lavorare. E perché t'hanno licenziato? Che impressione si al di là delle cose di aver commesso licenziato perché per la Lidl siamo numeri, funziona così, e chi è nell'ambiente Lidl lo sa. E lo sa, poi dopo se vogliamo parlare di che non è così, io cioè, ho lavorato, non ho capito, quindi cioè, lei dice che è una scusa. Poterlo dire. Cioè, scusami Ramon, secondo te ti hanno licenziato per stare dietro la campagna contro di voi, cioè per una questione d'immagine? Per una questione d'immagine, poi siccome il collega accanto parla e penso non era assunta la Lidl o faccia un altro mestiere, gli dico da quello che mi hanno detto a me, sì, gli interni della Lidl, sì, a noi ci hanno licenziato perché fosse un esempio per gli altri. Perché siccome se a noi ci facevano passare questa cosa qua, magari davano un esempio sbagliato a tanti dipendenti che potevano fare anche altre cose loro e non venivano puniti. Certo. E ci hanno fatto sì, però invece hanno passato un messaggio sbagliato ai dipendenti. Perché ora un dipendente, quando vede qualcuno rubato, gira di là. Perché dice, perché devo fermare? Scusa perché attimo, ti sei pentito? Aspetta, adesso ti faccio replicare. Voglio capire una cosa, ti sei pentito? Ti sei pentito di avere messo quel video online? In realtà l'hai messo in quella chat là, d'accordo, però potevi... siccome la metti in una chat di 24 e di averli preso. No, mi sono pentito, uno perché era uno scherzo, due perché sono girati tanti video di questo tipo. Questa Margherita con la zingara mentre si scherzava, mentre si ballava le canzoni dei Gypsy King, mentre dava gli auguri di Natale a tutti i clienti, sono girati tanti video, basta guardare il mio profilo con le Fox, c'ha la maglietta addosso. Scusami Ramon, questa qua, i zingari che stanno là, oltre a rubare delle cose dentro la Lidl, cioè perché la cosa è incredibile, Parenzo, questo bisogna dirlo, e ci sono gruppi di Rom lì a Follonica come in tutte le parti adesso d'Italia che commettono reati di continuo. Sì, un reato su tutto è quello che dovrebbe essere, e Follonica lo sa, sì, che qua hanno fatto un progetto per integrazione per i Rom saltato perché praticamente prostituivano i minori. Ma e anche, questa anche prostituzione dei minori non c'entra nulla con l'episodio di cui stiamo parlando. Non c'entra niente. Aspetta, lei non è uno sceriffo, non è un vendicatore mascherato. Loro venivano, prendevano i clienti, quelli di una certa età, con 10 euro li facevano sesso orale davanti al parcheggio, nel parcheggio dell'azienda. Questo è un reato, ma che c'entra? E l'azienda lo sapeva. Ma che c'entra? Allora io dico, ci sarà qualcuno che fa qualcosa? Ci sarà qualcuno? Oppure qui si parla di bullismo da parte nostra, io trovo il bullismo sia da parte loro, che questi fanno come cazzo li pare e nessuno li può di niente. Cioè dell'azienda. Qualcuno gli dice anche qualcosa e se qualcuno dice anche qualcosa gli tappano la bocca. Ma, cioè questa è democrazia. Ma bullismo chi sono? L'azienda, la Lidl, sono dei bulli? No, bullismo lo fanno loro, quelli vengono a rubare, quelli vengono a fare le cose e non li può dire nemmeno niente. Cioè la Lidl non ha mai denunciato, erano consapevoli del fatto che davanti nel parcheggio del supermercato facevano sesso orale o marchette? Lo sapevano? Ma sanno tutto, cioè ma cosa c'entra con l'episodio questo? Vengono grandi capi ma che sono pagati i fior di quattrini, vuoi non sappiano possiamo quello che succede stare dentro al il negozio. Merito allora, il Parenzo profilo... dice scusami no, Ramona, no, Parenzo dice un'altra cosa, Parenzo dice quello che deve dire Parenzo. Parenzo dice in 40 secondi che qui non stiamo valutando se questa signora tal Margherita Rom è no, cresciuta voi dovete valutare alla scuola. Tutto, voi dovete Ramona, valutare Ramona, tutto. Aspetta, dovete valutare. Non stiamo valutando. Scusi, Ramona, aspetta un attimo, Ramona. La mia domanda è precisa. Non stiamo in questo momento valutando se la signora Margherita Rom, rinchiusa in quella gabbietta e ripresa, sia cresciuta alla scuola di Benedetto Croce a Ponta. Non stiamo valutando se la signora è cresciuta alla scuola di Benedetto Croce, perché non ci interessa se la Rom è cresciuta. Ci interessa se è una ladra o no. Non in questo momento ci interessa se è una ladra. Intanto c'è la magistratura e la polizia. Proprio in questo momento devi valutare la persona che è di fronte. Noi stiamo valutando il gesto che lei e il suo. Ma lei non è uno sceriffo. E tutti lo sanno, ma io non so. Lei nessuno. Non è uno sceriffo. Lei ha fatto semplicemente una sciocchezza. No, io sono semplicemente un dipendente. Avanti. Che se venivo preso in quella situazione lì, venivo licenziato. Ok, essere licenziato per un rom o per chiunque altro non andrebbe bene, punto. Scusami, un'altra cosa, Ramon, è vero che queste qua buttavano o lei stessa la candeggina nella roba da mangiare? Ma quando questo? Sì, ti dicevano di fare questa cosa qua, ah, ma no, anche per levare il problema. Cioè è l'azienda vi diceva, scusami ho sbagliato, l'azienda vi diceva di buttare la candeggina? Cioè così vi dicevano la Lidl? Sì, fa, buttate via la candeggina, l'ammoniaca, vedrà poi dopo mangiano. Cioè, io ora mi fermo nei termini perché... Era in tante occasioni sono state fatte anche delle battute che se le dicessi ora magari scoppia veramente il caos. Cioè da parte dei dirigenti della Lidl dici? Allora, sì, io ma non si sta valutando questo in questo momento. Ma questo è uno scherzo, La Lidl ha valutato il comportamento di questi due dipendenti non consono. Il curriculum di questa Rom non cresciuta alla scuola di Einaudi non ci interessa in questo momento. Ci interessa sapere. Ma se te azienda a me mi metti in croce, se te azienda mi metti in croce dicendo se quando va a buttare lei queste più cose, dice che quel video lo rifarebbe ancora. Altra vabbè, gente, avanti, e più ti dice, io però non faccio niente per levarti questa gente qui, mi spiega lei come risolve il problema? Me lo spiega lei come avrebbe risolto il problema? Siamo davvero alla fine. E poi bisogna partire sempre dal presupposto che questo è uno scherzo, punto. È uno lei scherzo, lì benissimo. Poteva uscire da quella gabbia, esatto. Nessuno l'ha presa, bravo, e ce l'ha infilata, c'è andata e gli si è detto guarda Margherita, noi ci siamo vivi dentro, ti si dice, punto. E l'abbiamo chiusa, ma il giorno dopo senti come urla la Rom, fallo risentire, ma urlava perché ha detto e ci credo, ci credo che gli hanno detto di urlare, urlava sempre così, lo ha detto prima. Sei l'avvocato difensore di Ramon? No, io sono dalla parte di due dipendenti che sono stati licenziati ingiustamente per aver fatto uno scherzo e ripeto, dopo la pubblicità torneremo per qualche minuto ancora con Ramon e io spero che ci sia un imprenditore tra i tantissimi che stanno ascoltando che assuma questo signore che è stato per un video messo su internet di una Rom ladra e autrice anche di altri reati che lui ci ha detto. Spero che lui sia commissario Ramon. Ma chi è l'ispettor Clouseau? Ma fermo di cosa stiamo parlando? Fermo lì. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Pagato dal Mossad. Parenzo. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Pagato dal Mossad. Sono Parenzo. Vabbè, è la soddisfazione dell'animale. La zanzara. Qualcosa si muove, caro Parenzo, perché stanno cominciando a chiamare delle persone, piccole o grandi imprenditori che siano, adesso verificheremo, che vogliono dare un lavoro a chi è stato licenziato. Sembra strano che lo possa dire io, che come sai non sono mai qui a fare battaglie. No, ma è mezzo vergognoso, è mezzo totalmente vergognoso, perché stai stravolgendo la verità. No, la verità qual è? Quella che dici tu? Quella che no, dici tu, la verità. Che la verità sono i fatti di cui stiamo parlando. Ma i fatti sono contro. Te li ha raccontati. Il curriculum potenzialmente criminale della signora Margherita, perché avete esposto un curriculum. Ma non è criminale, sono i fatti accaduti in quell'Idel. No, hanno detto in passato quella ruba. Qui stiamo parlando di un episodio. No, venivano a rubare la merce. Andavano a rubare la merce. Stiamo parlando di un episodio preciso. Stiamo giudicando questo. Non ma non puoi estrarlo dal contesto. Il curriculum criminale non puoi toglierlo o potenzialmente criminale di questa persona, perché nulla fa ma sì. Ma guarda che sei incredibile. Cioè non lo puoi tirare fuori da un contesto. Non lo puoi tirare fuori da un contesto. Quella là è un'abituale frequentatrice, come ti ha spiegato il signore, che certamente si deve difendere, ma non è che racconta delle cazzate. cazzate, perché lo sanno tutti gli abitanti di Follonica, perché ci hanno chiamato un sacco di persone prima, quando è scoppiato il caso, e lo sai benissimo che cosa succede davanti a quel posto lì. La presenza di questa signora è stata tollerata sia dall'azienda sia dai suoi dipendenti, che non possono fare nulla, non è che si possono mettere a denunciare la Rom. La Rom a un certo punto stava lì in questa specie di gabbiotto, hanno fatto uno scherzo, lei ha urlato. Allora, è una criminale, criminale fai uno scherzo? Se è una, mettiamoci d'accordo, ma non è una, se criminale, veramente, vabbè, una ladra incallita, uno non è che dice no, ma io ho un rapporto con questa, quindi voglio dire, mettiamoci, Ramon, d'accordo, che rapporto sulla avevate di con questa Margherita, Ramon? Ah, allora ci tengo a precisare un'altra cosa, visto che si continua a parlare di questa cosa qui. Tre minuti dopo questo video lei era in negozio mentre si stava lavorando, poi perché era finita la pausa, a chiedere ma si è uscita bene nel video, fammi vedere il telefono, fammi vedere se si è uscita bene, cioè sta cosa qui va detta. Ma certo che va detta, assolutamente, sembra veramente una tortura, e ripeto, non c'è, perché era uno scherzo. Poi quel signore gli sta dicendo delle cose. Parenzo si chiama, Parenzo. Ok, e loro lì stavano rubando, perché ripeto, noi non si butta via le carte o i tappini di plastica delle bottiglie vuote, noi li buttiamo tanta, ma tanta, e quando dico tanta, dico veramente tanta, roba buona, che la gente deve spendere 50 euro per comprarle, e loro lì li rubano. Questo è un fatto. Noi, è un siccome fatto. Noi purtroppo quando usciamo e quando uscivamo, se ci viene veniamo presi con della gente lì, ci licenziano. Allora è quello il problema. Nessuno vuole fare lo sceriffo, nessuno vuole fare niente. Vi licenziano. Scusa. Vi licenziano perché loro pensano, e loro fanno questo ragionamento qui, l'azienda. Che ne so io, te, Ramon, che non spacchi le cose apposta per poi ridarle in mano a loro e poi magari se le mangi a casa? Capito, che ne so io, appunto, però allo stesso tempo voi non potete, ma no, Ramon, io sto parlando, Ramon, io nel senso di tutta l'azienda, perché è tutta lì dell'Italia che funziona così, e su tutti i negozi, quindi io penso, quando si parla di certe cose, questo lo dico io perché io lavoro alla Lidl, lavoravo alla Lidl. Chissà come lo so dice oggi, però lo dice oggi che ha fatto una bischerata, cioè, ma io dico, ma sicuramente sarà una bischerata, quella che ma fare se ha uno detto scherzo. Che l'avrebbe rifatto quel video, ma almeno ma dire che è uno scherzo, perché ha detto che è uno scherzo, e ti ha detto che quella Roma non ha sofferto, non è stato un sequestro, non è stata una presa per il culo, chiedeva subito dopo, come ci ha detto lui adesso, chiedeva sono venuta bene in quel video, come sono venuta. Ecco l'avvocato. Ma non è l'avvocato, è la realtà dei fatti. No, ma tanto la realtà scusi, non si vuole Ramon, vedere, perché quando va, quinta dalla vostra parte? Quando va dalla vostra parte? Ma saranno cazzi suoi dove vuole andare o no? No, saranno cazzi suoi dove vuole andare. Scusami. L'ha già chiamata Salvini per candidarla? Che ne pensi dei Rom, Ramon? Ma io non penso niente, cioè purtroppo è un problema sociale che c'è. Come quello, come l'immigrazione, purtroppo è un problema sociale che c'è. Forse per questo è uscito tutto sto casino, perché la gente è stanca. Cioè, poi magari a dire nelle che il TV, problema sociale, nelle radio si può parlare quello che ci pare, però poi alla faccia tutti i giorni quando apri la porta di casa e usciamo tutti quanti e le cose le vediamo tutti quanti, la TV ti può far vedere quello che ti pare, ma tutti subiamo un disagio, ok? E questo disagio purtroppo c'è. Quello, ed è la verità, guardi, e non lo dico io, o quello, e nessuno si vuole non ci sono, solo, non ci sono giustificazioni, o quello piene, è un vergognoso, gente, non c'è piene. Giustificazione, non c'è palle piene che giustifichi un episodio come quello. Ma lei o la gente deve giustificare, o quello scherzo, è bulli, ma cosa allora guardi, le cose sono due, o quello lo mettiamo come, lo etichettiamo come bullismo, come un episodio di bullismo nei confronti di una persona che anche se è una ladra non merita di essere sbeffeggiata, quindi o è bullismo. Il problema è che non se ne rende nemmeno conto, il bullismo lo fanno loro, che facendo quello che fracasso li pare, nessuno li può dire niente, ti sbeffeggiano anche, io rubo, bello mio, questo, non ti posso fare niente, e quindi ti mettono in croce, quello è bullismo, quindi quello questo è bullismo, autorizza è bullismo, non a riprendere, quindi che è uno scherzo, benissimo, questo è un bullismo, abbiamo capito vero, che loro fanno quello che li pare, nessuno il messaggio li può che abbiamo lanciato è che si può fare, quindi il messaggio, fatemi capire, il messaggio, mica ha rubato, ha fatto un video, l'ha messo online. Non ha rubato, non ha picchiato nessuno. Cruciani messo... e Ramon, d'accordo, fatemi capire il messaggio che state lanciando. Ma non c'è quindi. Nessun messaggio che vogliamo no, lanciare. No, quello che state dicendo, chiamiamolo come ti pare. Cioè il messaggio. Ma perché che non voi si state... può fare un video? Non ho capito. Non si può fare un video e metterlo online. Non si può fare un video, hanno chiuso. Era aperto un gabbiotto, dico avete ormai messo dentro anche a te. Ma era, io sono dalla parte sua, certo. Questo io, si capisce. E il video poi si può fare perché bene, lei è consenziente. Avete consenziente. Guarda, lei si fa il video, punto. C'è la liberatoria. Le ha lasciato la liberatoria. Scusi, signora Rom, la stiamo riprendendo per una gheggina. La possiamo riprendere, cioè, ma il non rendersi conto innanzitutto del gesto che si è fatto. Ma perché stai parlando di sequestro di persona? Tu dall'inizio hai parlato di sequestro di persona. Io quando ho visto quel video ho pensato fosse sequestro di persona. Poi dopo sono andato a rivederlo. Lui mi dice che non c'è sequestro, nessuno ha sporto denuncia. Benissimo, meglio, non c'è sequestro di persona. Ho capito. Però continua a parlare. Si è parlato di razzismo. Si è parlato di razzismo. È un episodio gravissimo. È un episodio gravissimo che non va definito come una guasconata, perché non è una guasconata. Ma non è una guasconata. Qualcuno ha offeso qualcuno in quel video? È umiliante perché è umiliante per quella persona. È il fatto che qualcuno abbia tollerato la presenza di quei rom, ecco, ancora, per tutto quel tempo davanti alla Lidl. Ecco il soccorso di noi Concuciani. Eccolo qua, eccolo che arriva. Senti, tu hai ancora intenzione di lavorare alla Lidl o per te è finita la storia? E come fa? No, magari no, con la... no, sono finiti i rapporti e nella lettera che mi hanno mandato c'è scritto si è rotta la fiducia da parte loro, ma si è rotta la fiducia anche da parte mia. E io una cosa che spero, e questo lo spero per i vecchi colleghi che ho io, e per un gruppo che abbiamo noi lì dell'Italia interno, privato nostro, che tante cose emergano per questa azienda che è per tante cose di facciata, ma emergano per il bene dei dipendenti, perché poi si vuole parlare sempre di cose, situazioni che non si sanno, e magari che è dentro poi invece in realtà. Cioè, tu come la definisci? La Lidl come la definisci? Un'azienda modello oppure una specie di dittatura? La seconda che hai detto, perché già il fatto che te l'ho detto ti impone delle regole, però poi non ti dà la soluzione, ti mette in croce. Facciamoci due domande. Cioè, no, tu non hai mai parlato con i dirigenti da quando è successo questa cosa qua? No, anzi, una cosa ci tengo a dirla, e sfido chiunque lì mi può dire il contrario, ok? Perché poi sennò si dice sempre uno spara le cazzate, spara le cazzate. A qualcuno del negozio, quando è successo sto fatto qui, gli è stato vietato anche di parlare con noi telefonicamente. Cioè, siete stati isolati. E io voglio dire, e noi si mette a posto le brioche, cioè si lavora alla CIA, noi mettiamo a posto le brioche. Per quale motivo devi impedire a un responsabile, a un caponegozio, a un commesso stesso di non avere contatti con Ramon? Ma per quale motivo? Va bene, Ramon, grazie, ciao, a presto, ciao. Saluti. Allora, ragazzi, andiamo subito a Udine. Luca, vai. Pronto, buonasera. Vai Luca, dimmi. Mi sentite? Sì, dimmi. Io sono sotto la pioggia, in macchina, sotto una tempesta, e mi stavo ascoltando. Sì. E sono di Udine, mi chiamo Luca, ho 56 anni, sono un imprenditore. Sì. E cosa posso fare? Il settore è leggermente diverso, il ragazzo lavora nell'area supermercati, io sono nei pubblici esercizi. Comunque io... Che vuol dire nei pubblici esercizi? Ho dei locali. Sì. Quindi il lavoro è attinente per certi versi, il pubblico esercizio è un po' diverso dal supermercato, orari diversi, eccetera. Cioè sei pronto ad assumere la mano? Assolutamente, perché il colloquio è già fatto. Perché l'ho sentito parlare. Sì, ha visto che è molto abile a chiudere le porte. È molto abile a chiudere le porte e a fare i video. Quindi, se vi serve un video promozionale, lo potete utilizzare sicuramente. Grandissimo. Beh, lui è stato grandissimo. Il colloquio è già fatto perché ha parlato con voi per mezz'ora. È stato freddo, in una situazione molto particolare. Ha perso il lavoro ed è stato freddo, educato. Sa parlare l'italiano. Lavoro, e poi ha avuto a che fare con due cazzoni come voi. Quindi, bravissimo è stato, gli avete fatto il colloquio voi e io l'ho ascoltato. Va bene, prima, se ci sarà bisogno... Prima di fare imprenditore ho fatto il dirigente d'azienda e ho visto formatore iniziale e formatore permanente e quindi insomma ne so qualcosa. Comunque mi fa specie che un radical chic non difenda il lavoratore e io in tutti questi anni imprenditore, non è che il radical chic come lei mi chiama deve difendere le cazzate che fanno i lavoratori a prescindere, allora, cioè nella sua visione del mondo. Il radical chic di sinistra deve per forza difendere il lavoratore. Sommessamente dico che è una cazzata. Hai anche ragione, Luca, prenderò in considerazione questa cosa. Giuseppe da Milano, vai Giuseppe. Pronto Giuseppe, sono Giuseppe. Lo so che sei Giuseppe, sì, ok. Scusa, senti, volevo intervenire di questione Margherita. Sì, che sei? Rom tu, romeno, che sei? Sì, sono rumeno. Rumeno, dai, dimmi, dai. Ti chiami Giuseppe tu. Capito? Non ci siamo. Mi chiamo Giuseppe come te, quindi siamo praticamente fratelli uguali. Fratello del rumeno Cruciani, ottimo. Sì, questo non è vero, è un fake, sì, è un fake assoluto. Ottimo. Va bene, Giuseppe, dai, dimmi avanti. Proviamo a vedere se sei vero oppure no, dai. No, volevo dire solo che no, giusto che questa roba di gabbia, perché no, giusto questa roba di gabbia, sì, no, sì, no, sì. No. No, no, giusto, no, sì, no, assolutamente no. Perché assolutamente perché vai a fare in culo, assolutamente no, perché devi andare a fare in culo. Assolutamente perché devi andare. No, io ti faccio continuare anche, però assolutamente perché devi andare a fare in culo. Un po' vai, smascherato questo, ma come eh? Facciamo a mangiare noi, scusa? Come facciamo a mangiare noi? Tu vieni a rubare casa di ladri? Tu venire a rubare casa di ladri? Si fa così. Sì. Solo mangiare come un euro per mangiare, se mai, se devi farlo, perché devi farlo non bene. Deve rubare, scusa. Perché fallo io bene, no, però. Deve. Se devi no, fare, non deve. Se la devi negazione fare, non la dice mai completa. Se devi fare il finto io rom. Non ruba, non, capito? Loro dicono io non esatto. Ruba, capito? E devi farlo meglio, Luisa da Ferrara. Vieni a rubare a casa dell'altro amico mio, Luisa Ferrara, vai. Io non rubo, solo mangiare, no, lavoro in Italia. Dai, Luisa, dimmi. Avanti. Pronto, buonasera. Vai, dimmi. Vorrei parlare con Parenzo, posso? Sì, la Luisa, che bella voce dolce che ha, Luisa. Posso darle ecco del lei così mi sentirei certo, più certo, signora Luisa. Di esprimere il mio parere su di lei. Certo, Luisa, cara, prego. Certamente, la accolgo con grande calore. Prego, mi signora, mi piacerebbe tanto sapere da quale pianeta lei trae le sue radici. Da dove viene? Da Marte? Italiano. Da dove? Da vede, Saturno? Cara signora Luisa da Ferrara, lei io sono nato a Padova. Di sempre tutte queste, sì. Ogni tanto tira fuori tutte queste espressioni di cultura, vuol fare vedere di essere probabilmente no, lo sei, no, più punto no. Di Cruciato. No, assolutamente. Tutt'altro, è razionale. Tu io vengo da Padova. Croce, mi tiri fuori sì, la Benedetto Croce. Sound, sì. Come se sì. Pensassi sì. Che tanti italiani non la conoscono. La conosco molto meglio di te. Benissimo, Luisa da Ferrara. Io vengo da dove vieni? Io vengo da Padova. Dove lì. Sono nato il 14 febbraio del 1976. Fermi lì. Lasciati un parenzo e alla defecarsi io non ci penso. Da Zanzara. E fammi parlare, stronzo! Ma in Italia sai che toccherebbe fa? Non andarci più alla Lidl! Nessun italiano deve andare più a far spesa alla Lidl! Ci andassero solo i rom a far spesa alla Lidl! E poi questo qui si stupiva per quelle boato di soddisfazione per quello lì che era morto, sto gran pezzo de merda, de sto testa de cazzo de Parenzo, l'anima degli mortacci tua, dice ottimo, a gran cornuto, vattene a fanculo grandissimo cornuto, sei un cornuto. Mannaggia Cristoforo Colombo, se te ci avessi davanti e farebbe a pezzi sto gran pezzo de merda. Vattene a fanculo Parenzo, vattene a fanculo a te tutti quanti i rom. Pacata opinione del nostro camionista. Io l'ho soprannominato il camionista romano. Il che camionista ormai romano. Io sono in una dimensione gandiana, non violenta. Abbraccialo e fortissimo. Quindi lo abbraccio forte e lo ringrazio per questa chiamata che ha fatto. Lo ringrazio perché ha detto delle cose anche importanti, apparentemente violente, ma dentro il suo cuore c'è una fiammella di bontà che prima o poi si accenderà. Lo sai che impazzisce quindi, se dici così, impazzisce. Certo, e io per questo lo abbraccio fortissimo. E vorrei che anche tutti gli amici del campo rom di via Tribonia, ad esempio a Milano sì. o il campo rom che c'è sulla Palmiro Togliatti convergessero verso il suo camion, lo circondassero e lo abbracciassero fortissimamente. Ma non credo che finirebbe così la storia. Io vorrei che fosse così, un abbraccio forte, sincero, caloroso, vero, perché solo l'amore sconfigge l'odio. Allora ragazzi, in queste ore c'è un po' di polemica intorno a quello che ha detto un giocatore nero. Vedi come cambia il clima però, vedi come cambia l'atmosfera, un attimo. Un giocatore nero di pallone che si chiama Montari, ma un eroe, ma Montari va, Montari è un, va premiato Montari, Montari è fantastico, Montari deve essere, intanto dovrebbe fare il ministro Montari, lui e la Chieng insieme, fare il ministro. Allora Montari ha ricevuto dei cori razzisti da parte della solita tifosi. Ma che quattro persone, il calciatore, dai. No no, attento perché c'è molto di più. Ho letto il caso nello specifico, allora... tra questi c'era anche un ragazzino, infatti è rimasto impressionato l'ottimo Montari, perché si è avvicinato alla curva dove c'era questo ragazzino, dove l'ottimo padre, un classico ascoltatore della Zanzara, inveiva contro il negro, capito? Allora il padre del ragazzo, il padre e figlio allo stadio inveivano contro il negro, forse parlando così ci capiamo meglio. Benissimo, Montari scosso da questo ha detto ma insomma non si può andare avanti così, e quindi si è uscito dal campo, capito? Allora, questo ci dimostra la vergogna di alcune curve. Cioè, dovevano allontanare. Ma non c'era nessuna stadio, curva, la tribuna. La tribuna, comunque, quello che è. Il padre e il figlioletto razzisti andavano allontanati dallo stadio. Ma che, ma hanno fatto dei bu, forse. Non li ha sentiti nessuno. Forse. Comunque, è una cosa incredibile. Io spero che Mattarella per Montari si muova, dica qualcosa. Faccia va un premiato, monito. Dici, va premiato. Va premiato, e l'arbitro invece va punito perché doveva interrompere la partita, tu dici. Vabbè, l'arbitro. L'arbitro che c'è, l'arbitro andrebbe radiato completamente. Radiato, ma se dalla cosa, ma sei impazzito. Ma questo Montari è uno a fine carriera che vuole un po', vuole fare un po' l'esibizionista. Tutta. È un negro, dai. No, ma che c'entra che è un negro? Ma dillo, ma dillo, tanto è uno, è un esibizionista. È un esibizionista. Che aveva voglia di fare un po' di casino. Ma che scimmia? Ma pensasse a giocare, dai. Gli dicono bubu come la scimmia, e per te un esibizionista. Ma non li ha sentiti nessuno questi cori, dai. Sei il mondo al contrario. Tu sei la terra è piatta. Tu sei la terra è piatta. Comunque il sole gira intorno alla terra. Tu sei così. La sei vera vergogna è che Montari a un certo punto ha detto: se io toccavo l'arbitro, quest'arbitro andava sottoterra. Cioè, ha quasi minacciato l'arbitro. Se io lo toccavo, andava a finire sottoterra l'arbitro. Ma come giri le cose? Va sanzionato lui. Va sanzionato lui. Hai fatto passare per vittima il dipendente che ha messo in gabbia e ripreso la Rom. Assolutamente. E ora fai passare per eroi l'adorabile padre con l'adorabile figliolo che urlano al negro in una partita di calcio. Tu sei il mondo al contrario. Questa trasmissione va chiamata il mondo al contrario. Va, smettila. Mi ha fatto incazzare perché con loro, anche quelle che dicevano questa, sono stato tranquillo con loro. Non sono incazzato, ho girato per andare a giocare. No. Però lui è venuto con la alta voce su di me, che guarda, ho detto, è lì che mi ha fatto, ho detto a lui. Ma e lui è stato fortunato perché è arbitro. Arbitro non si tocca arbitro, se toccavo arbitro, se riesci, c'è regole per toccare arbitro, lui era sotto terra già. Un po' fumantino questo Montari, non puoi alzare la voce con me. Quello è l'arbitro, può fare il cazzo che vuole. Tu non puoi andare a parlare con i tifosi in tribuna che fanno bu. Al limite ci pensa l'arbitro. Non cosa puoi essere tu il giustiziere della notte. Il giustiziere. Dai, su, cosa dai. Che non ha fatto. Cosa che non ha fatto l'arbitro. Ma non lo so, ma non è di lui a decidere. Non è Montari a decidere se si fa o no, dai. Comunque di fronte a un episodio di razzismo va allontanato il razzista. Ma quale episodio di razzismo? Va allontanato il razzista, non il negro. Ma che mondo è? Ma è tutto capovolto ormai. Vai. Io rispetto tutto. Chiaro. Io in campo rispettavo anche altri. Parlavano male con lui, ho detto no, non parlate così. Questo qua lui è che gestisce tutto in campo. Chiedete a lui. Ho parlato dal primo minuto fino a quell'episodio lì. Però tu non puoi alzare la voce su di me. Va bene, lo so che non sono nessuno, però non puoi alzare la voce su di me, che io ho ragione. Capito? Ma chi sei? Ho ragione. Ma che è sta roba? Ho ragione io. Decide l'arbitro cosa succede in campo. Dai, ancora l'arbitro deve avere le palle per fermare la partita. Ma senti, stiamo parlando di un episodio di razzismo, non di un episodio calcistico. Tu non devi parlare, parlo io. Ho detto no, tu non parli tu. Tu devi avere le palle per fermare la partita. Se tu non hai le palle, quindi chi sei? Arbitro non è solo per stare in campo, per fischiare, per fare tutto. Intanto Massimo Carminati dal carcere continua a chiamare. Ancora? Ma come fa? Continua a chiamare, questa volta il cavaliere Auriemma. Senti. mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Ho capito. Massimo Carminati, segnatelo. Capito? Segnatelo. Chi sei tu? Dimmi chi sei. Massimo Carminati, segnatelo. Capito? Segnatelo. Ma non te conosco. Segnalo sto nome, ascolta a me. Così no. Vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Ma ho visto chi sei, ho visto chi sei. Io sono quello che abita là. A dove abiti là? Dimmi dove. Io sono quello che abita là. Dove abiti là? Se mi venite a fare l'impianto bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Dove là? Ma dove abiti? Massimo Carminati, segnalo così, vai su internet e vedi chi sono io. Abiti, che cazzo le cazzo, dimmi a dove abiti. Segnalo sto nome, ascolta a me. Così no. Vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Dimmi a dove cazzo che abiti, dimmi a dove abiti. Io sono quello che abita là. Dove? Se mi venite a fare l'impianto bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? A dove abiti, va. Se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio. Poi se che cerca te. A dove abiti? Io sono quello che abita là. Dove là? Su cazzo abiti te? Testa da cazzo che sei. Il cavaliere Auriemma. Ma il cavaliere Auriemma. Di che cosa? Che ce l'ha con Pomezia quello lì, no? C'è Lorenzo da Chieti, vai Lorenzo, vai dimmi. Lorenzo! Eccomi! Vai dimmi. No, volevo dire, ma voi avete cambiato argomento, cazzo. Io ma non abbiamo cambiato parlo. Nessun argomento. Ma cazzo, non lo conosci sulla trasmissione, dai, forza. Ma sì, ma volevo parlare della zingara. Ma parla pure della zingara, va bene, dai. Volevo dire che i prodotti che rubava la zingara erano tutti da buttare. Sì, questo ma parla, scusa, mio amico mio, parla senza viva voce. E questo senza cosa vuol auricolare. Dire? Dai, su. Cioè, questo forza. Cosa, no, cosa c'entra voce. Con l'episodio? Togli viva voce! No, no, il viva voce, te lo giuro! L'auricolare, dai, cazzo, su. Non c'è niente. Vabbè, giuro. Allora? Erano da buttare oppure no? E questo cosa c'entra? Sì, erano per la discarica, dunque. E cos'è questo scriminante? Cosa c'entra? Sta aspetta. Rubando, cose che vanno buttate. E allora cos'è, che c'entra? Ma che quella roba ma lì? Come si fa ma a dire no. Che rubare? No, forse non hai capito bene. Lì non si può entrare, è proprietà privata. Non si può entrare a prendere la roba. Anche se va in discarica, non si può entrare a prendere la roba. No, ma sta dando ragione alla zingara. Ho capito, qua. Ma c'è una bella differenza tra senti, andare a Lorenzo, rubare. Lorenzo, scusa. No, ma non c'entra con l'argomento. A parte che quella, secondo quello che ci ha raccontato Ramon Zurita, uno dei due dipendenti licenziati, rubava anche dentro. Rubava anche dentro. In più prendevano quella roba lì. Prendevano quella roba lì e in alcuni casi la rivendevano. La rivendevano, chiaro? Questo non lo sappiamo, questo lo dice lui. Ma lo dice lui. Questo lo dice lui e questo giustifica. Dovremmo chiedere al procuratore di Catania di indagare. Bravissimo. Bisogna chiedere al procuratore senti, di Catania. Lorenzo, non fare lo spiritoso. Io non ho capito il fatto che questi prodotti non fossero da fossero solo da buttare. Cosa significa? Cosa significa? Spiegami. Ma si può fare un casino per sta cosa perché sta rubando i prodotti che poi andrebbero. Si può fare un casino per un video fatto passare come un atto razzista, come un sequestro di persona, come un insulto, lo ha fatto un'azienda come una presa privata. In giro? Lo ha fatto l'azienda privata, non i comunisti. Sì, l'azienda privata ha sbagliato. Posso dire che la Lidl ha fatto una cazzata? Posso dire che non entrerò mai più in un perché supermercato della Lidl? Semplicemente perché la protagonista è una Rom. Ma noi non ci andiamo perché noi non ci andiamo semplicemente perché cioè fa indignazione non il video ma la Rom, capito dove siamo arrivati? Il nostro no, la civiltà. Solo ti chiedi, sono di Pescara, quindi forza Montari, c'era giù a lungo, diciamo così per dire visto che avete cambiato argomento. Vabbè, Franco Milano, questo non conosce la zanzara, non sa che cambiamo argomento ogni secondo. Franco Milano, vai. Sì, pronto, è stato eccezionale quando mi avete passato la telefonata. C'era il camionista di Roma. In ogni caso io chiamavo per un'altra cosa. Sui filmati che si vedono in TV quando arrivano i soccorsi per gli emigranti sono già tutti sui bordi dei gommoni sì. Quindi partono che sanno già che dopo pochi metri non ho mai sentito una stupidaggine più grande di questa verranno come soccorsi non ho mai sentito una stupidaggine più grande di questa guarda, cioè, si, lei, guarda la televisione scusi cioè lei dice che si ci già sono sanno che saranno salvati perché sono d'accordo e sono sui bordi sono, ma sono sui bordi perché il gommone si ribalta se no da quanti sono anche perché sono tanti ma che dice forse anche perché sono tanti ma questo è stupido però sono sui bordi del gommone ma per forza perché il gommone si ribalta quante volte è successo stupido che non sei non altro sono dentro scusa perché non sono dentro nel gommone perché ma sanno io, ma che scusami, i gommoni ma non ho capito. Sono ma i gommoni sono sovraccarichi scusi. E sanno che dopo pochi metri vi soccorrono ma cosa dopo pochi metri ma cosa dice ma lei quante dalla vostra parte ha guardato fermi quante? Tutti quante Ball si è spogliata sull'aereo e poi allinate denunciata perché si è spogliata tranne le mutandine ha lasciato tutto, ma si è tolta tutto per il primo maggio, ha, scusa, per il primo maggio. Ne parleremo dopo. Faremo un forum, forum trans, faremo, vabbè. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Siamo il top, siamo il top, siamo il top. Ciao ciao Ricchione. La Zanzara. To let them tell you wanna bet your eyes. You're the only ones gonna sacrifice. Make no difference if you're right or wrong. Peraltro sono anche ebreo, signor. Vabbè, comunque questo non mi interessa. E fammi parlare, stronzo. No, te lo dico in veneto. Coppate, coppate. Baby, don't give it like it used to be. Baby, don't give it like it used to be. No! I show your face, love when it shine like you got no name. Enough to make a little girl go and say, be my guest and let it out tonight. But it's okay. Transmodeo, vai via. Mentre Donald Trump segue i consigli di Antonio Razzi e apre alla Corea del Nord, pronto a incontrare Kim Efebal. Frattanto. Nel frattempo Efebal si spoglia in aereo e sì, poi allinate con i finanzieri e i poliziotti che la rincorrono per la solita campagna sulla legalizzazione della prostituzione. Non si è tolta, non si è tolta le mutandine, cioè credo, non è rimasta con l'uccello di fuori. È stata però denunziata. E ti credo. Ma mi ha mandato questo WhatsApp, sentiamo. Cavolo, Cruciani, io sto facendo il lavoro più vecchio del mondo. Nonostante non ho il diritto di festeggiare il primo maggio perché la prostituzione non è riconosciuta né dalle istituzioni né dal fisco qui in Italia. Quindi ieri sera ho preso il volo da Milano a Bruxelles, sono stata in Hotel Plaza e stamattina a posto ho preso il volo da Bruxelles a Milano. Dopo 50 minuti in aereo sul volo sono andata in bagno, mi sono spogliata tutta nuda lasciando le mutande addosso perché c'erano dei bambini, per un po' di rispetto. Sono seduta nel mio posto e poi quando siamo atterrati sono usciti fuori tutti, sono arrivati i poliziotti. Io ho insistito di non mollare l'aereo ancora per un'ora, quindi Bruxelles Airlines ha dovuto fare un'ora di ritardo grazie a me. Poi mi hanno preso i poliziotti, mi hanno portato nell'ufficio allinate. Io continuavo ad essere tutta nuda. Dopo mezz'ora in quell'ufficio ho potuto scappare da quell'ufficio verso i passeggeri che aspettavano le loro valigie allineate, gridando, urlando dietro di me 6, 7, 8 poliziotti. Ho passato un bellissimo primo maggio, questo è un segnale che ormai faccio manifestazioni internazionalmente e continuerò a farlo finché la prostituzione viene riconosciuta dal fisco e dalle istituzioni qui in Italia. Viva l'Italia! Un bacio a tutti, buona serata. La signora Efebal, scusami, che, no, che si esalta per aver fatto ritardare l'aereo di un'ora. Io sarei incazzato come esatto, una bestia. Ma adesso tu difenderai anche questa roba? No, cioè, no, evidente, no, se no. Una signora ti si prende, tu sei in aereo con tua figlia, tranquilla, sì, no? Sì. Ecco, a un certo punto una signora di ritorno magari dal grande weekend del primo maggio, dai ponti, dalle cose, ecco, cioè, appunto, benissimo, la figlia stella dice: guarda amore, visto siamo stati a Bruxelles, bello, non c'è tanto, a un certo punto ti siedi vicino, c'è una signora completamente nuda, dici: scusi, ma per carità di Dio, va benissimo, cioè, va non bene, è la quello, legalizzazione della prostituzione, va bene, va bene tutte le battaglie, una che si mette a urlare nuda in un aeroporto, secondo te la polizia lo deve inseguirla? Ma di che parliamo, amico mio? C'ho due chiappe, amore mio. Denunciata per atti osceni, sai che cazzo gliene frega Efebal? Atti osceni, devo... quello sicuro. Ma non gliene frega un cazzo, dai. Ma io, se ci fosse stata mia figlia di vicino, comunque avrei avuto un imbarazzo a spiegare, ma a sì, spiegare questa bene, cosa. Capito? Questa qua è una prostituta che vuole fare la sua battaglia. Ma lui adesso, se c'ha la figlia accanto, se ha la figlia nuda accanto, ma non dai, ha nessun problema. Si sconvolge perché vede la transessuale. Ma non mi sconvolgo di niente. Ma su un aereo, ma vedi che sei il mondo al contrario. Porca miseria, guarda che sei il mondo al contrario. Ma che secondo te è normale fare un'ora. Non è normale, ho capito, ma non è che uno si sconvolge. Invece, perché guarda, tempo fa cosa mi è successo? Ero in treno sempre con mia figlia, sì, e stavo andando, mi pare, da Bologna a Roma, vabbè, mi ricordo, insomma, e a un certo punto passa il signor Malgioglio. Sì, l'ho già raccontato, sì, una Malgioglio, volta, no? Non Malgioglio. La Malgioglia, no? Sì, e dice ciao, mi dice ciao, com'è questa bella bambina, che bella che è. Io vado a Margherita, ciao a mia figlia, ciao Margherita, sono la zia. Dico, lei mi fa Margherita, mi guarda, dice come la zia, non sapevo che fosse, dice perché zia, dico no, ma è modo di dire, sai, il signor Malgioglio, capito, la zia, ho spiegato che insomma non era la zia, io sono la zia Malgioglio, ma dico, guarda, non è proprio la zia, è una zia nel senso che come siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te, ecco, vabbè, caro, ecco. Vaglielo poi a spiegare alla figlia che non è la zia, questo intendo io, poi non ho problemi, figurati. Vabbè, allora dove dobbiamo andare? Andiamo a Riccardo da Chieti, vai Riccardo, forza Riccardo. Riccardo. Buonasera, vai, buonasera. Vai Riccardo, vai. Parento, sì, signor Parento, sì, volevo dire che lei è uno dei principali istigatori, sì, dell'odio razziale. Sì, perché io? Nel contesto, sì, sì, lei istiga, sì, l'odio intanto razziale. Intanto grazie per aver chiamato. Grazie, mi avete chiamato voi. Sì, sì, sì, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Comunque grazie, Parento, comunque, grazie per partecipare alla trasmissione. Prego, non esca fuori dal discorso. No, anzi. Prego, dica, sono molto felice di sentire, di confrontarmi con lei. Sì. Perché? Certo, perché con il suo atteggiamento, che mi consenta il paragone, sì, assomiglia a quello di quei vecchi clown dei circhi di una volta. Grazie, quasi clown, il clown, sì, metteva la faccia nel buco e la gente pagava tre palle, un soldo per tirargli la palla di petto. Grazie, è una bellissima immagine, mi piace molto. Ma è la sua parte, sì, grazie, grazie. Ma qui però non c'è nessuna parte, qui uno dice quello che pensa, punto e basta, non c'è nessuna parte. Uno pensa che ci sono delle parti in commedia, come non c'è nessuna parte qua in commedia, perché non c'è nessuna commedia. Come si chiama sto signore qua? Riccardo, dai. Preparazione H, va bene, senti, preparazione H. Vabbè, se ti fa incazzare, Riccardo, va benissimo, però che c'è? No, non a me, non a me, no, io sono calmissimo. Ma perché poi? Spiegami. Perché ci sono persone magari di livello culturale più basso o persone che hanno una sensibilità perché lei si ritiene di livello culturale più alto? È arrivato un bocconiano. No, prego. medio mi ritengo io medio. Vabbè, allora? Di livello culturale basso, tipo il camionista che lo manda. Ma che ne sai che il camionista è di livello culturale più basso di te? Scusa. Vabbè, sembrerebbe che sia di livello culturale più basso. Vabbè. Quelle persone. Macinano dentro un odio terrificante poi contro tutti. Per colpa di Parenzo. Gruppi, per colpa di Parenzo. Anche per colpa di Parenzo. Di questo suo attivo. Quindi lui fa una parte in commedia. Però attenzione, perché sta istigando le persone all'odio. Riccardo, provincia di Livorno, vai. Ragionerò su questo. Riccardo, grazie. Dimmi. Pronto? Sì. Ciao. Dimmi. Senti, io volevo dire un po' a Parenzo. A parte che non riesco, cioè non ci parlerei con Parenzo perché tanto è tempo perso. Però no, ma parliamoci, dal confronto può nascere anche rispetto, amore. Dico a te, Cruciani, te glielo spiega a lui. Sì. Ora, col discorso di quei ragazzi licenziati, che praticamente non so come mai Parenzo dà ragione alla società. Vabbè, non si capisce. Hanno commesso un fatto perché grave. Secondo lui hanno commesso una cosa che ha danneggiato l'immagine dell'azienda. Certamente. Ma è l'unico che lo pensa. In Italia credo che sia l'unico, sì, uno dei pochi. Sì, insieme a Gennaro Migliore, Gennaro Migliore, qualche deputato di sinistra, sicuramente. Che però dovrebbero avere il coraggio di fare come ha fatto Parenzo, perché altri dicono: beh, no, però poi l'azienda decide come vuole. Parenzo ha il coraggio di dire: hanno fatto bene a licenziare una persona. Sicuramente. Altri non lo dicono, non hanno il coraggio. Va bene. Comunque lui non sa che la Lidl così perde ancora di più. Perderà ancora arrivato, di più da questa faccenda. L'altro. No, è arrivato, sì, fa il conto economico, vedrai l'altro, quanta gente. Ma com'è arrivato l'altro? È arrivato, benvenuto. Vabbè, vedremo, dai, vedremo questo qua, Riccardo, ma mica ha detto. Vedremo, ma scusa, ma te guardi i social? Tutti mettono sì, ma non è che sono tutti frequentatori della Lidl. Io per quello che mi riguarda appunto, dopo questa porcata appunto, che hanno fatto a questi due appunto, per seguire il politicamente corretto del razzismo nei confronti della Rom, col cazzo che ci vado, col cazzo danneggiata da questa cosa. Ma neanch'io. Se loro mettevano una pietra se la pigliassero con me, io dico col cazzo che ci vado, col cazzo, te lo dico subito. Se loro avevano messo una pietra sopra subito e non ritornavano sull'argomento, avevano guadagnato tutto. tutti avevano guadagnato qualcosa, no? Ma non lo so, perché probabilmente ha ragione Ramon Zurita quando ci diceva prima, hanno avuto dare una lezione ai dipendenti. Qui da noi queste cazzate non si possono fare, perché lui stesso ha detto che probabilmente è una cosa per cui si sarebbe aspettato una multa, un qualcosa, certamente sì, non le licenziamenti. Bene, sono d'accordo, hanno voluto dare una lezione, vabbè, d'accordo, perché no non si danno così le lezioni. Io ripeto col cazzo, siete sempre pronti a condannare i lavoratori nella gabbia. Perché sì. Il tuo cervello era la ROM che urlava uguale dentro grazie, la gabbia. Grazie la gabbia per questo cervello, contributo che ha dato. Ci possiamo, prego, ci abbracciamo, prego, ci abbracciamo, okay, in segno di pace. Bacioni, ciao caro. Quanto è stata amara quell'estate al mare senza far l'amore. 20 anni fa io ti lasciai sola su quella battigia. Mi dicesti, ma perché mai fuggi, di che hai paura? Io però scappai per quel tuo modo strano che avevi di eccitarti. Tutti assieme vai, spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi spaventai. Ora lo chiaman squirting, ma ai tempi non sapevo, credevo stessi male. All together, spruzzami acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Allora, ieri mi sono ritrovato quasi come un ragazzino, caro David. Sì. E sai, con i telefonini in mano, certo, a cantare, certo. Non mi succedeva da tanti anni queste canzoni meravigliose. Questi pezzi memorabili, di un personaggio, Blowing in the Wind, certo, di un personaggio per il momento di nicchia. No, si parlava ovviamente Nobel, come Bob Dylan, al Nobel per la letteratura. Si parlava di squirting. Ora, abbiamo lasciato cadere il discorso sullo squirting qualche giorno fa con una signora che ci ha chiamato. Una pornostar che si chiama Martina Gold, nome d'arte ovviamente, sì. Martina Gold, sì. La quale, rispetto alla professoressa che abbiamo interpellato e che ci diceva che lo squirting in realtà è un misto di urina ed altre cose, ed altre secrezioni, vediamo femminili, intanto che faccia sta Martina, aveva Gold. Un'altra visione, aveva un'altra idea la signora Martina Gold. Martina, sto guardando. Buonasera signora Gold, buonasera. Hai capito. Ciao cara, ciao Martina. Mi siete documentati? Martina Gold in share, sto guardando. Sembra interessante. È lei che dovrebbe documentarsi, signora Martina. Innanzitutto oggi vogliamo dire... Ma io ne produco a quantità industriali. Allora ragazzi, fermi tutti. Innanzitutto è il 1° maggio. E il 1° maggio in onore anche delle lavoratrici pornostar, oltre che delle lavoratrici transessuali come la signora Efebal, che peraltro anche, è anche una prostituta. La Martina Gold non fa la prostituta, fa la pornostar, altro mestiere rispettabile. E lo fa senza nessuna costrizione, lo fa per guadagnare dei quattrini, anche se ormai nel porno non si guadagna. No, lo faccio perché mi piace trombare. Ti piace trombare? Questo giusto è buono, per precisare. Questa è una precisazione, diciamo, giusta, per però anche per altri motivi, non è che fai solo perché ti piace trombare. Per business, però insomma, principalmente per principalmente business si può fare in tante maniere. Si può fare hai scelto di unire l'utile al dilettevole, vedo, come si dice. Foto sono al mare, felice vedo. Per quello. Sei felice. Senti, ma tu sei una squirtatrice professionista da questo punto di vista oppure no? Cioè quantità industriali. Ma perché vengo lì? No, te ne faccio vedere. Guarda, Martina, è successo in una radio americana. Ora è da fuoco, Una radio americana diversi anni fa. Devo studiare la questione se sia fattibile o sì. No. E c'è quanto tempo far chiudere io questa baracca praticamente? Salva agenti. Sì. Insomma, tutto il materiale che necessita. Cioè, ma tu lo fai, come dire, perché è stimolata dal mestiere oppure di tua natura, cioè di tua sponte, come si dice? Dimmi la verità, però è tutta la verità, nient'altro che la verità. Io non so dire bugie, partiamo adesso, da questo. Non esageriamo, dai. No, è vero, una brutta verità piuttosto che una bugia. Allora. No, ne faccio... è successo per la prima volta sul set, con un attore molto bravo, tra l'altro. Poi ho capito dove toccare e adesso, insomma... Per cui tu, di tuo, prima di fare la pornostar, in realtà non squirtavi, questo è il punto. Assolutamente no, ci ho provato 100.000 volte, ma non ci sono mai riuscita. E invece adesso lo fai puntualmente, è diventata una tua caratteristica. Adesso potrei affogarti. Addirittura. Sì. Ma perché sostieni? Perché sostieni questa cosa qui che sia frutto? Perché? Che è sta roba? Parenzo che ha aperto qualcosa. No, perché di sicuro c'è un liquido che è quello, insomma, che ogni donna insomma produce, ma tutta quella quantità lì è solo urina secondo te? È solo assolutamente. Ma questo l'hai studiato o no? Nel dettaglio, perché ci dovrebbe interessare questa cosa nel dettaglio. Dimmi, però vi posso garantire che nel momento in cui accade, sì, con quella modalità lì, il piacere è tanto. Io perdo ogni tipo di ma piacere tuo, del dici? Corpo. Lei è andata a votare alle primarie, beh, signora anche Gold? Anche, come, scusi? No, volevo sapere se la signora Martina Gold è andata a votare alle primarie del PD. Ah no, io non sono, no, non voto alle primarie, no. Niente. No, ma che gliene frega? Sono lontana dalla politica io. Martina, scusa, di dove sei tu? In quale città risiedi? Non mi faccio i politici. In quale città risiedi, Martina? In Puglia, Pogliano a Mare. Ma avete un'altra new entry adesso tra le pugliesi, la signora Malena. Ma scherzi, la Malena, sono contentissima. Sono colleghe, vedi che non c'è invidia spesso tra le signore pornostar. Ma a me no. Che gliene frega? Anzi, io spero che, anzi, facciamo un annuncio. Dimmi, un appello a tutte le pugliesi che hanno voglia di trombare e godere, ma che venite a fare porno, giusto? Beh, adesso io sono orgogliosa delle pugliesi. Forse ha scambiato questa radio per un'altra cosa, ma insomma. Però scusami Martina, non è che per forza uno che ha voglia di trombare deve fare per forza la pornostar, magari uno fa un mestiere. Però, no, aspetta, ti posso assicurare, vero, che ci sono mestieri da un certo punto e di vista borghesissimi, voi, borghesissimi, di persone che trombano come matte o come matte. Avete ragione, però io vi posso assicurare che le scopate che mi sono fatta nel porno non le avrei mai potute fare se fosse rimasta in quel Pogliano. Perché e dici? Con questo io posso andare a cena tranquilla. Perché mi hanno trombato degli stalloni davvero molto, sì, molto bravi. Beh, questa cosa è incredibile, guardi. Ma ha svoltato la giornata lei proprio con questa cosa. Cioè, ma ha messo davvero una notizia. Insomma, io accolgo tutti, cioè, ma non insomma, hai paura? Non hai paura dell'AIDS, delle malattie, questa roba no, qua? No, perché facciamo i test. Ma ho capito, noi però, amica mia, mi scrive il signor Robert Annuna. Invitala a Roma quando ci sono pure io. Scrive ma il signor Annuna. Ma venite al Pascia Club, tutti romani. Il signor Annuna, che è un signore, lei non lo conosce, ma è un amico mio di Parenzo, amico, è uno ebreo. Che tra l'altro fa un mestiere anche molto, che lavoro fa? Molto nella finanza, lavora diciamo, nella finanza, uno molto ma tanto io faccio fattura, capito, pago le tasse, sono una delle poche che fa allora, che fa fattura, paga le tasse. Allora fai le marchette sul serio, Marti? No, non faccio le marchette, però prestazioni, prestazioni personali one to one le fai, sì o no? No, assolutamente. E se uno, fatto, 2000, però, se uno ti dà 2000 euro per fare una serata, la fai o no? Me ne sono state proposti anche molti, molti di più. Però ti dico, per piacere scopo sempre. Certo, questo. Soldi no, non mi darebbe piacere. Soldi no, anche perché, no, certo, anche perché diventerebbe buona. Ma il mio business ce l'ho, faccio un sacco di serate, insomma, bene. Chiaro, però ecco, in queste serate tu squirti? Certo. Ecco, cioè, questa è la tua cosa. Cioè, sì. La gente chiede la restituzione del biglietto. Qua per strada. Io basta che mi tocco in quel punto lì. Vabbè, vado. Però questo, signora mia, adesso non è che a me cambia, lo ripeto, io devo signora andare a cena, Martina Gold. Potrebbe potresti fare una cena con squirt. Organizziamo una cena con squirt. Ma facciamo una cena, io cena col vino faccio, no? Con goccio di vino, un po' da di bere, salmone, allora, ma così. Pesce crudo e da bere squirting. Beh, oddio ragazzi, da bere Aspettate una roba che nei locali solitamente quando c'è il palco vicino, insomma, andiamo alla botta alla finale, gente, ormai, tanto, tanto. Allora? C'è gente che mette il bicchiere. Lo so. Purtroppo c'è di tutto nella vita. Nella signora vita c'è mia, di tutto. Signora, io ho imparato stando qui da 6-7 anni a questa parte che il mondo è un po' diverso da come me lo immaginavo. Ora mi fate passare per normale. Cose che però francamente normali proprio non sono. Però per carità, anche ma il cosa bicchiere, c'è vabbè, di più normale, ma che c'è scopare, tutto normale, bene, brava, bene, brava, figlio, Martina, brava Martina, brava Martina, come diceva la signora Nike Rivelli, lo conoscevi il signor Ruggero dei Timidi con cui vorrei chiudere? Come no, ma io tra l'altro ogni tutti volta amici che mi sono mettete, sti maiali, vabbè. Le ho sentite questa canzone, io l'adoro sta canzone, ce l'ho anche nel mio spettacolo. Ce l'ha anche nello spettacolo, figurati. Mentre squirto, ovviamente. Beh, Ruggero, ti amo, ci sentiamo domani. Ciao Martina, ti abbraccio. Anch'io vi abbraccio tutti. Ciao, squirta subito, ciao. Ciao. Quanto è stata amara quell'estate al mare senza far l'amore. 20 anni fa io ti lasciai sola su quella battigia. Tu che mi dicesti, ma perché mai fuggi? Di che hai paura? Io però scappai per quel tuo modo strano che avevi di eccitarti. spaventai. Ora lo chiamano squirting, ma ai tempi non sapevo, credevo stessi male. Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Mi visita un dottore, mi disse non è niente, è nettare d'amore. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. E fammi parlare, stronzo! Radio 24, libera la voglia di fare.